Buonasera signori, con le nostre calde voci siamo pronti quasi questa sera E va bene questa nostra simpatia che sempre ci pervade l'anima. Questa sera io e il mio amico Walter siamo qui pronti per voi. Ci possiamo definire i sopravvissuti. E ricordatevi che questa sarà la puntata più inutile di sempre. Mentre aspettiamo l'arrivo di Marco Gualdi, che come al solito è sempre impegnato a fare tardi, noi abbiamo... si è aggiunta un'altra persona, Simone Gusella. Non so fare battute che non fanno ridere, però. Come posso fare? Simone, hai fatto l'intervento? Sì. Vabbè, prima o poi lo sapevamo che era in calendario, non ci avevi detto che eri entrato in ospedale, però va bene. Ebbene sì. Poi subito, al volo le fanno... un taglionetto con un colpo di forbice. Ho anche chiesto che mi diano l'accento romano. Ho anche chiesto l'accento romano, perché quello milanese non romano, lo so fare. Romano, monterodondino, no? Monterodondese. Monterodundu. Mia De Paola. Salve a tutti, gente. Che avrebbe fatto di tutto questa sera tranne che partecipare. Ma noi un la po' obbliga. Come al solito, perché tutte le volte non è che fai salti di gioia, diciamo. Esatto. Certe volte sto proprio bella dentro il letto, sotto il piumone. Ci devi sta, mi dispiace. Però ho cacciato le bestemmie, quello sicuramente. La domestica. Cosa? La domestica, come si chiama? La signora Cecioni? Mercedes, l'ho spodestata. Mercedes Benz. Tocca fare economia, quindi da oggi in poi Mercedes è stata licenziata. No, ma no, Michela, non devi dire, ti devi atteggiare, devi dire no, l'ho licenziata perché mi rubava dalle borse, devi fare la snob, non devi dire che bisogna fare economia, che cavolo. Che se ha aperto il cassetto dell'argento, che noi non abbiamo. Infatti. Vabbè, ma il pubblico non lo sapeva fino a quando tu non gliel'hai detto adesso. Insomma, infatti, uno deve essere infatti. Come dire. Vabbè, mo arriviamo, sperando che arriva. Comunque, fra poco. Perché indovinate chi manca? Chi manca? Noi, se dovessimo giocare a 3-7 col morto, chi lo farebbe il morto? Guardi. che poi questi tempi. Zitto. Mamma mia, che musica soft, che romanticismo, che cuore che abbiamo questa sera. Questa sera che vi proponiamo la puntata più inutile di sempre, qui con me, Michela De Paola, Walter Sbano e addirittura è arrivato anche Marco Gualdi, che si è inculato il tiramisù. Sto male, c'ho là, però poi quando mi deve mangiare il tiramisù... Vabbè, ma siamo in predicazione. Ho capito, ma è brutto. scrivere. Ah, dato che è una prediretta, non racconteremo agli amici che ci stanno già ascoltando in chat che a un certo punto Michela De Paola ha preso la mano di Simone Pizzi e se l'è portata sul suo sedere. Quindi non capiamo se ha detto me brude. Un affettuoso gesto che indica il dopo cena, nel senso dopo ci divertiamo. Ma non lo so. Sulla lo so. Schiena, sì, certo. Ma dove inizia? Dove finisce la schiena e inizia il sedere? Questa è la domanda che vi poniamo, ascoltatori. Anche una cosa brutta. Insomma. Questa sera e durante la puntata speriamo, insomma, di trovare anche delle risposte a questo. Dove finisce l'abilità e ma dove quindi finisce il culo. Scusate, ragazzi, ma quindi questa era l'ennesima prediretta della serata o è la diretta? No, è la prediretta. Vabbè, è la prediretta come me che sono la prediletta. Oh, è meno male che avevi detto che non eri capace di fare le battute alla Cusella. Meno male. Scusate, per istituzionalità facciamo una cosa. Gualdi e De Paola, scambiatevi di posto. No. Se no mi confondo. No, poi il pizzo allunghe le mani. No. Dai, che siete amici da una vita, una mano. Anzi, vado a prendere le cuffie. Io e Marco Gualdi siamo amici da una vita, che si sappia. Che Pizzi, io non so. E mi ha rubato l'amico. Se ci fosse stato il Gusella, qui avremmo tirato fuori la solita metafora del meglio un culo caldo in panza che una panza calda in culo. Non ha ancora capito. Non l'ha ancora capita, ragazzi. Lui glissa di dribbla, ma non l'ha capita. Non credo che la possa aver capita. Va bene, fra un po' arriviamo. No, sistemiamo un attimo qua le due strisce di coca e poi. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Anvedi, dai ed attacco, dai de punta, rieccoci qua su Ottimisti genericamente mortificati. Da me, Simone Pizzi, vi do il buonasera qui su Runtime Radio e accanto a me c'è Michela De Paola. Salve a tutti! Non strillare, tranquilla, te sente, la gente te sente, sentiamo noi, sente tutto. Tutto. Vogliamo fare una sorta di omaggio? La vogliamo chiamare per l'occasione Gisella De Paola? No, la chiamiamo Mercedes. Michela Gusella. È più cacofonico, ma Gisella De Paola, però promette Gisella bene. Gisella De Paola. Gisella è bruttissimo, un nome brutto. È molto milanese, però, Gisella, come nome. Walter Svano. Eccolo, con una comunicazione di servizio alla regia, credo che non sia partito il nostro sottofondo. Sì, io lo sento, cioè, tranquillo. Ecco, sentite? Ok. Allora no, perché forse il ducking è molto molto... È sparato, basso. No. Adesso vi alzo il volume di regia, così almeno... Ecco. Vabbè, ma poi c'è anche, abbiamo detto, un sopravvissuto. Il sopravvissuto per definizione, Marco Gualdi. Grazie. Che finalmente ha ottenuto il suo telefono, ha il suo nuovo telefono. Guardate il telefono, metto davanti al microfono, guardate, l'avete visto? È Gualdi. Ne approfittiamo immediatamente per salutare Lobby Frontali, Carmine Puccio Console, Stefano, uno Stefano così a casaccio. Uno Stefano che per qualche motivo ricorda molto un Gusello. Lulla B. E poi c'è sta anche... C'è Leopardion che è appena entrato, Roberto Marin e c'era Davide Gatti. Non sappiamo se c'è ancora. E ovviamente quel milione e mezzo di ascoltatori che si vergognano di ammetterlo e quindi non si palesano in chat. Che sono talmente anonimi che nel Leo l'avete salutato? Sì. È tornato. Eccoli Davide tutti. No, oh, c'è anche Davide Gatti. Promettono bene qui, ragazzi, perché ovviamente stanno salutando la Pega, che voi sapete benissimo essere una citazione, un omaggio ad Elio e le Storie Tese. Lobby che praticamente fa finta di essere un uomo impegnato e c'ha una conference call con dei colleghi. Adesso io, ok, credo di aver capito i colleghi pissi cosa intenda, insomma, però vabbè, ci ho dovuto mettere un attimo. Psicologi, chiaramente, no? Pissi, ok. Ah, non è i colleghi da, no, perché tu devi sapere, Lobby, che da noi Pissi, detto anche Bissi, è il nostro produttore. Esatto. Ma anche la pizza piccante. Soprattutto anche la pizza baccandi. Soprattutto quando io vado dal Che Babbaro, quello mi dice Bissi, come vuoi la pizza Bissi. Vabbè, comunque detto questo, facciamo un recap di quelle delle puntate precedenti. Quindi, come sapevate, Marco sono Gualdi, morti tutti. Marco Gualdi ha avuto sempre i suoi problemi di compravendite con i cellulari. Ha comprato il cellulare, ma il cellulare non si girava. Faceva no, io mi giro, ma non per cazzo proprio. Però poi è riuscito ad accordarsi con Amazon per farlo ritornare indietro ed è arrivato finalmente. Pensa oggi sono anche rientrati i soldi. Sono anche rientrati dei soldi. Ma quindi cosa... poi dopo l'hai ricomprato da un altro venditore. Per comprarne due, così almeno uno domani. Guarda, attenzione, perché questa tecnica l'ha usata Simone Cusella con le cuffie, sappiamo bene. Quindi eh sì, però d'altra parte vedi, anche Davide Gatti c'ha due cose, c'ha due server in replica con i certificati scaduti e deve capire come fare per sistemare la cosa. Perché c'è, quindi... se ce n'hai due, quella è la cosa importante, perché se no, server è un computer che serve. No, la domanda è che questi server sono rack mount o sono standable? Perché se sono rack mount, cominciamo. Giocarci diventa difficile dal punto di vista sessualistico. Ma esatto, io me ne vado. Già questa è una delle puntate più inutili di sempre, diciamo. E comunque vorrei dire a Davide Gatti che se i certificati sono scaduti, fino a domani mattina nessuno te ne rilascia uno rinnovato. Perciò vai a dormire tranquillo e non ci pensa, ecco. O meglio, grazie. Ascolta tranquillo. Peccato che lui gestisce i server di una società che fattura miliardi di dollari ogni minuto. Esatto, insomma, sì, ma per colpa di questi certificati adesso non scadevano i certificati, vabbè, ragazzi, allora io credo che la gusellosi sia una patologia virale che ormai ha contagiato la nostra chat, perché Davide Gatti ha detto che ha i server da sistemare e Leo Vargio non gli ha risposto. Davide, ma a che server? È grande Leo. Leo che sta imbriaco. A differenza invece di Carmine, che invece, come ha detto lui oggi su Facebook, c'ha la sindrome del primo Douglas e subito sta lì, ma che server? NXPCF o NMNPTK? E questo va bene. Comunque vabbè, quindi Stefano dice a Leo che anche lui è ubriaco. Va bene, credo che questa Gualdi, come va questo nuovo telefono? Oggi. Questo è importante. Facciamo una recensione. Beh, prima di tutto, che telefono è? È un P20 Lite, l'ho comprato dopo che ho sentito Trump. È come la Philadelphia, quindi. Non lo so, è successo qualcosa per il quale il microfono di Marco si è spento da solo, quale ragione si è spento da solo. Aspetta, però adesso lo sento, si sente tanto bene. Ma mi sa che eri spento, sai Marco. Ecco. Ma quindi può essere quindi vabbè, Marco tanto... cacofonicamente parlava dal mio microfono, dal tuo microfono, esatto, perfetto. Ma io adesso sono contento che scorreggio, però quando parlo l'importante è che sia pulito per è voi il cervello quello, Marco. Ok, perfetto. Allora, l'importante è capire qual è il problema. Forse abbassa un pochino, forse stai leggermente più lontano, che ancora o sono lontano o sto vicino, rompere sempre i coglioni, no? mai una volta che posso stare bene, insomma. Comunque sì, bel telefono, penso si accende, ruota quando tu dici di ruotare, ruota. Non si sente, ma forse adesso penso che si sentirà pure troppo. Scusate, ma dateci conferma che lo sentite, ma noi lo perché sentiamo. Purtroppo c'è un problema che il suo microfono è rimasto spento, perché non ho seguito il suggerimento di Walter di prima, intanto accendili tutti, perché tanto siamo sempre noi quattro e invece niente, sempre noi poveri quattro stronzi, invece no, niente. I quattro comunque, dell'Ave Maria, ragazzi. Comunque Marco Guardi si è comprato questo P20 Lite con Philadelphia, ma perché ovviamente non posso pesare troppo sui fianchi, quindi ho comprato light, qualche cosa light che faccia poco male, perché non sto proprio benissimo. Marco tiene il cellulare suo dietro la chiappa come a mo' di portafogli. Lo tengo sui fianchi, perché lo tiene sull'appendice, ti spezza le reni, come vabbè, ma ce fai la recensione di questo telefono meraviglioso, perché vogliamo è un telefono che dispone di un monitor molto grande. Ho chiesto di fare una cosa che lui non dovrebbe fare. Hai ragione. Quelle sono i sensori funzionano. Funzionano, il giroscopio, c'è il giroscopio comico, poi c'è il campo magnetico nucleare scopico. Okay. C'è qualcosa di quantico. Fa anche le foto fantasma. Anche le foto fantasma che oggi ho postato a Pizzi, è bellissimo. Sì, possiamo farci una trasmissione, apparizioni di macchine fantasma. Senti, il flusso canalizzatore nel deflettore principale a 3 litri, cioè? Credo di no, però è la versione proprio. Perché quella è light. Leo, portaci da bere anche a noi, non ho capito sta cosa di bere da soli e offrì anche a Stefano, che tra l'altro c'ha la febbre sto Stefano qua. Ma noi siamo sicuri che questo Stefano è chi pensiamo noi? No, Stefano, se no stiamo a fare figura di merda, insomma. Lo insultiamo. Vabbè, una più una meno, una settimana di media la facciamo, insomma. No, solo una. Quello una lunga tutta la puntata. Vabbè, quindi il telefono fa le foto, abbiamo capito. Perché fa davanti e le fa dietro le foto, è incredibile. Pure. Quanti megapixel? Ma un sedicino. E giga joule. Un sedicino, 16 giga di foto. 16 giga joule. E permette anche di fare l'effetto bokeh. O bouquet? L'effetto bouquet. Ah, ah, chi lo bouquet? Ma quanto de bouquet? Parecchio, parecchio, ragazzi. Parecchio, parecchio. Ma bouquet? No, solo il bouquet. Okay. Solo bouquet. Oh, scusa, quella è la versione pro. No, quella è la versione pro, quella che dici tu. 20 bouquet. 20 bouquet. 20 bouquet, 50 l'amore. Moglie, sappilo, che c'è stato moglie vicino. Nel senso che ti stai proponendo per risolvere la sua... No, gli sto da una papagna a faccia. Ma povero. Michele è stata colta da qualche giorno da un senso... Di odio. Di come si... pudicità indiroiconda. È diventata napolitana, prima era tutta scafata. Adesso quando uno vuole dire borra in pubblico non si può più dire, si può più dire. Vi mette da urlà come i ragazzini dei... Ma sai, dentro anni. Un pub pieno di ragazzini che perché urlano, perché non si sente niente, esatto, cioè, è urla. Normale che uno urla nel pub, cioè, e invece no, lei è diventata proprio... Poi mi sembra che quando noi pub, io nel pub bevo, poi ognuno fa quello che vuole, non voglio sembrare... Vabbè, ma non è che stai a testa china a bere e basta, cioè, che uomo triste. Parli di borra, ovviamente. Allora, dobbiamo invitare Leo perché ci porta in trasmissione Vamelli, Ciauscolo e altre meraviglie. E quando te pare, quindi quando vuoi vieni. Nella... Guarda, tanto tra noi e te ci saranno un par d'ore di macchina. Se te la cavi. Dove se... sta Leo? Chi va? È marchigiano. Marchigiano come marchigiano. Come le mie origini. Marchigiano entroterra, mare. Stefano ci dice che è quello che ci ascolta sempre in difterite, ma stasera c'è. Bah, no, ma secondo me... Scusella, basta. Io non lo so, guarda. Almeno tienite in incognito. Infatti. Vabbè, comunque, invece il recap di Sbano. Sbano, per esempio, questa settimana non si è visto e non si è sentito. E tutti dicevano, che è successo, che c'era qualche cosa, grilli per la testa. E invece no, non c'è proprio. Perché sto lavorando nella capitale. In the capital city, yeah. E che stai a fare nella capitale? Così, per capire, io sono curioso. Sto facendo docenze ad un corso di preinserimento. Ah, non eri tu quello che è andato a raccogliere la Mondezza a Roma, no. Finalmente. No, semmai ce la vado a portare. Non è neanche quello che ha tappato le buche a Roma, o neanche quello che ha costruito, che ha rimontato Spezzacchio, insomma. Quindi lo... ragazzi, non so se lo sapete, ovviamente, no, vabbè, per i non romani siamo passati da Spelacchio a Spezzacchio, ovviamente, di un anno, ovviamente. Quindi un ennesimo complimentone alla giunta Raggi, è riuscito a fare l'ennesimo affarone. No, però, beh, questa è roba Netflix, ragazzi, però, mentre Roma affonda, noi a Monterotondo come Venezia siamo, mentre si affonda. Ma magari come Venezia, cosa, magari, Venezia più turisti, cioè, pensa alle vestigie romane, però ci portiamo un primato, un primate. Abbiamo, probabilmente, sì, se vestivano i romani importanti, no? Stilisti. Sì. Del nostro paese, che ha disegnato quello schifo di vestito per la Raggi. Camillo Bona alla Scala, sì. Bravo. O Camillo Benso. No, non l'ho Camillo visto, Bona. Non l'ho visto, guarda. Sì. Scusate, io mi distraggo perché leggo la chat e adesso me la chiudo la chat, così almeno... Allora, provincia di Fermo, comunque sono quasi 3 ore, ma per voi si fanno. Guarda, noi magari quando... Ma guarda, abbiamo anche un posto proprio qui in sala regia di Runtime Radio, c'è proprio un letto proprio tranquillo. Certo, devi dormire sotto il cavallo zombie, e questo sotto io... Sotto il cavallo zombie? Io non so. E di fianco al gatto strabico, quindi... Ma che gatto? No, vabbè, quello lo teniamo chiuso da... No, il gatto attimo. Strabico non si fa, perché vedere. Poi io non so, dipende. Allora, strabigatto no. Il gatto strabico di solito va da quelli che sono allergici, cioè lui ti guarda, sei allergico, allora vengo e me struscio. Capito? E quindi è un po' questo. Invece qual è il recap di Michela? Michela bestemmia in continuazione contro chiunque sia, e ce l'ha con Salvini, soprattutto il nostro capitano, è una cosa indegna. E ospita Negri nella sua grande villa, e questa è una cosa importante. Ma soprattutto, no, clandestini. Soprattutto si lei, clandestini. Ma sono tutti clandestini. Sono tutti clandestini. Lei è entrata in una fase della sua esistenza dove moriremo tutti di stenti e di povertà. E questa è la cosa, insomma, che oramai ha già contraddistingue. Michela sta cominciando, e non diciamo altro, ma sta facendo piani malefici per furare il fisco, per praticamente ingannare lo Stato, il grazie, prossimo. Tutto. Sta facendo il tutto. Non si poteva dire. Il mio commercialista ringrazia. Il tuo commercialista è quello che ti sta insegnando. Io devo dire, ma insegnai macchinato. Michela, scusa, Michela, Puccio ti sta facendo una domanda. La so, l'ho letta, ma non voglio rispondere. Fa schiuma, ma non è il sapone. non c'è un nipote che mi può suggerire la risposta, quindi non. Cioè, questo sarebbe in fio, ma sarebbe brutto. Chiedi a Matteo, chiedi aiuto a casa. Matteo, fa la schiuma e non è sapore. Ha voglia schiuma. Ha voglia pure, dice mamma, c'ho da fare, sto a pulire. E lei diceva, non le voglio sapere queste cose, non le voglio sapere. Perché è diventata la pudica così improvvisamente. Sì, sì, infatti, è successo qualcosa. Adesso dovremmo indagare e capire che cos'è che ha fatto in modo che Michele si chiudesse. Comunque, comunque interrompendolo in maniera indecente, io comunque non ho capito, cioè, quello che stava dicendo Walter prima, perché l'avete massacrato. Lui è indocente, sta facendo docenza. Io sto facendo le indecenze, cioè sostanzialmente è indocenze. Sto insegnando a dei ragazzi, diciamo, neodiplomati alcune nozioni di base per l'inserimento poi in stage retribuiti in aziende di tipo informatico. Poveracci, insomma. Allora ragazzi, in basso destra, dove c'è scritto firma il vostro nome e cognome. Data, la data dovete mettere quella del giorno. Cioè, perché... 6 giorni per spiegargli sta roba. La cosa brutta non è lui che deve spiegarle, sono loro che non le sanno, è quella la cosa grave. Insomma. Ma neanche lui, però lui, siccome che è un creativo, le improvvisa. Lui è un creativo, sì. Ma a parte gli scherzi, ma il livello. Detto anche scusa, a loro una domanda seria: il livello di preparazione di sta gente. Allora, in realtà io ho già fatto altri corsi. In questo corso alcuni ragazzi sono usciti dai istituti tecnici, quindi qualcuno di loro ha avuto un minimo di esperienza di programmazione, di ambienti di sviluppo, cose scolastiche, niente di che. A livello sistemistico, che è il tipo di, diciamo, di imprinting che gli sto dando io, non hanno particolari conoscenze. Però diciamo chi più e chi meno se la cavano. Però per esempio raccontavo prima a Simone, prima della diretta, di un ragazzo che malgrado questo stage, questo percorso formativo di 3 mesi, questo tirocinio, si è retribuito a partire anche dalle 4 settimane di corso che fanno. Uno di questi ragazzi, erano 11 lunedì mattina quando abbiamo cominciato, uno di loro, ma che tra l'altro era di Roma, quindi neanche a dire lo stress del pendolarismo eccetera, ha detto io sono laureato in scienze dell'alimentazione, l'argomento non mi interessa, grazie lo stesso. Onesto. Sì, ho capito, ma ti pagano, fallo poi dopo, onesto. Pazienza. Ma tu sei uno di quelli che sta aspettando il reddito di cittadinanza. Esatto, se onesto non te vado a fare un cazzo, perché sono due cose, perché cioè io mi ricordo io sempre. Spero che sia onesto. Che quando c'avevo la ludoteca, io offrì un lavoro a una ragazzetta, ho detto dai, che ti piace tanto, ti va di fare questo X ore ogni tanto, quella, e ti do questo. Il giorno dopo questa mi ritorna e mi dice: mia madre mi dà gli stessi soldi per stare a casa e non fare niente. Ho detto brava, vai così. Spero che tua madre ti renda orfana il prima possibile, in modo che tu non sappia campare. La colpa non è la sua, tipo. No, infatti anche la madre, cioè, giustamente, cioè, infatti, ma se me lo dà gli stessi soldi. Noi ci abbiamo invece il figlio che si è andato a vivere da solo. Bravo. Perché la madre non gli dava i soldi. Allora, Semplicemente perché Simone Pizzi a un certo punto ha cambiato la serratura. La pudicizia, guarda la pudicizia. Poi c'è, anche come di picchia è diventata proprio. Io l'ho conosciuta che era diversa. Era rock and roll quando ho sposato mia moglie. Ma diventa la mia nonna. Poi veramente nonna Berarda, un po' Zaralella anche. No, ecco, vedi, mi viene da ridere pensando che se avessimo detto a nonna Berarda ci fosse stato Cusella, non avrebbe capito. No. Come tante altre cose del resto. Vabbè, perché noi facciamo citazioni della nostra vecchianza. Gusella, la citazione della sorella. Gusella, ma preparati. Prega, ma fatemi mangiare. Gusella, preparati, perché io ho in mente. Ma scusate, per pure per fare l'altra citazione della sorella, ma pure tuo figlio scambia la sorca per un par de mutande? Non credo proprio. Grande. Vedi, cuore di mamma, bravo. Vabbè, comunque, Gusella, preparati. Carmine, tu non puoi parlare, cioè, c'hai veramente, sei sposato con una santa che ti sopporta. Perché noi tra l'altro, quando vediamo bene, ma uso privato sopporta. Della radio. Quando esatto. Cazzo venendo? Dovete venire, io vado con perché il Puccio non si muove. Puccio non gli va, Puccio un po' più aspettare. Sentitemi, io ho un'idea per Gusella. E Gusella, tieni di pronto. Allora, visto che noi pace sto Cristo, ma che va fatto? No, cioè, fammi parlare a Pizzi. Sono 3 volte che sto a cercare. Pure tu rompi il cazzo un po'. Allora, Pizzi, allora. Tu sei troppo paterno con Gusella. Niente, tu sganassi. Sei così paterno, ma io non ho capito. Sei così geloso. Quando vado al padre vero ti arrabbi. Interrompi tutto, in tutti e qualsiasi momento devi rompere il cazzo a me. Scusa, è normale. Gusella, lo dobbiamo fare interagire in questa trasmissione, quindi visto che noi dobbiamo sempre fare quel cazzo dei cineforum, giusto? A parte il cineforum dove gli faremo vedere i film che lui speriamo magari li ha visti, ma crediamo di no. Gusella, preparati, tu ti devi vedere ogni settimana le prime 2 puntate di un telefilm degli anni 80. la prima e la seconda puntata. Ma lo vedi che sbuffa comunque, che stiamo vedendo. Ma è normale. Ma ce lo vediamo insieme. Ci mettiamo lì. Okay. Perché no? Perché dobbiamo vedere anche noi, vediamo le cose che magari sono. Noi dobbiamo vedere la reaction in tempo. Dobbiamo vedere lui che cosa ne pensa di queste cose. Perché sì, però io continuo a dire che questa cosa non funziona. Perché noi che l'abbiamo vissuti da bambini, o comunque quando quelle serie erano una novità, le rivediamo soltanto con nostalgia. Ma se le dovessimo vedere oggi per la prima volta, diremmo: ammazza che schifo! Esattamente come farebbe Cusella. Noi lo diciamo se fanno schifo, cioè abbiamo visto tante cose e abbiamo detto: ammazza che sozzeria. Vabbè, comunque finisco la frase: noi ti vogliamo bene, ma sei un rompicoglioni assurdo. Muovi, no, ma perché? Ma perché? Ah, perché non si muove? Ah, muovi quel culo! Shake your booty. Beh, sì, tanto per citare un'altra delle notizie indiscrete. Dicono che è te che non te vada a muovere, insomma. Ma lui insomma lo dice che non gli va a muovere. Comunque, detto questo, io vorrei ricordare, prima di tutto, vi ricordo il gruppo Telegram di OGM che non c'è. Che non c'è. È vero, quindi niente, non ve lo ricordo. E poi dopo lo fondiamo e poi ve lo ricorderemo. Altro gruppo, vai. Prossimamente. Sto contento. Ma tanto che cazzo te frega, non li guardi. Non li guardo, no, sono 500 gruppi. Mi posso esci dai gruppi. Esco e voglio che mettano Marco, tutti. È uscito dal gruppo. Esatto, titolo, voglio che venga messo su ogni gruppo questa cosa. La prossima puntata si intitolerà Marco Gualdi è uscito dal gruppo. Marco Gualdi è uscito dai gruppi. Ti posso dire una cosa, che non sei proprio uguale a John Frusciante. Ma no, guarda. Tra l'altro, attenzione, perché lì c'è una chicca banalissima, ma chicca. L'ex membro delle DOT, che poi è rientrato anche, si chiama John Frusciante. Però nel titolo del film e del libro non l'hanno potuto citare, certo, direttamente. Beh, certo, bastava che probabilmente se glielo chiedevano. No, ci avevano i diritti e non ci avevano i soldi per pagare. Cioè, ci avevano i diritti per dire John Frusciante. Cioè, John Frusciante voleva i soldi per essere citato in un libro. È probabile. Che merdone. Beh, ma in quel periodo era uscito dal gruppo. Comunque, dato che ancora manca. Ed era entrato in qualche riello. Ancora manca un po' per Natale, però noi stiamo entrando nel clima natalizio. E voi sapete che noi c'è un personaggio che chi ci segue oramai da 7 anni, 8 anni, insomma, lo sa che c'è un personaggio che noi teniamo nel cuore e ogni anno siamo felici perché lui è ancora qui con noi. E questa persona non soltanto è ancora qui con noi. Pizzi, scusa, te l'ho mandato. Dov'è il contributo? OGM, sul gruppo OGM. Ogmar. Ecco, ok, quindi scusate, facciamo finta di niente. Interessante. Ecco, insomma, ci regala questa chicca con tanta energia, perché lui non solo non vuole morire, e questa per noi è una cosa importante. Ma anche noi non vogliamo che muoia. Ma ci esprime il Natale con questa grande energia. Dashing through the snow on the one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Oddio, stai buono, bells on bobtail ring. No, ma cuore, no, bright, sei vecchio, no. Stai buono. Adesso mi parte la pompetta. Oddio, sto stiamo a giocare. No, stai buono, William. No, oddio, sì, quello è il rumore della pompetta, che è il rumore di cane. Vabbè, mi vado a sfumare. Comunque, raga, una cosa è sicura. Spettacolo. William Shatner ci sotterrerà a tutti, assolutamente. Però posso dire una cosa un po' triste? Stavo guardando il recap qui su YouTube, il buon William, o chi per lui, insomma, ha pubblicato questo video il 25 settembre, quindi si è portato anche avanti, 3 mesi esatti prima di Natale, ha fatto solo 16.000 visualizzazioni. Che tristezza. No, dai ragazzi, ora lo condividiamo sulla chat della live di OGM e vi preghiamo di ricondividerlo a grandi e piccini, a tutte le famiglie. Sì, però levamelo però. Ai vicini di casa, anche ai colleghi di lavoro. Sì, fondamentalmente, se vi sta qualcuno sul cazzo, dedicatela. Quindi, questo è il suo. Però io inviterei Sbano, dato che lui insomma è svelto, di cercare Bohemian Rhapsody. Mamma! Cantata da William Shatner. Cioè, noi siamo andati. Andati a vedervi. E poi ci arriva Bohemian Rhapsody. Quindi mettiamola Bohemian Rhapsody. Esatto. Però quella. Esatto, diamo il tempo. Siamo insomma, prontiamo. Che questa è veramente una chicca, ragazzi. Cioè, proprio quando un artista artismo. C'è dentro proprio tanto da dare. Non si... Is this the real life? Is this just fantasy? È recitato praticamente. God, no, aspetta, aspetta. Deve venire, like... meglio deve venire. Aspetta, perché no muori perfetto. From reality. Open your eyes. Open your eyes. Look at the sky. Look up to the skies. And see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows. Michela lo imita perfettamente, tra l'altro. È uguale, brava Michela. Senti quasi. Ma va! Aspetta, aspetta, non lanciare. No, no, non anticipare tempi, anche perché insomma, dai. Mama. Just kill a man. Just kill a man. Stiamo parlando ubriaco, di un ubriaco, mostro sacro che interpreta un pezzo di un altro mostro sacro. Palesemente ubriaco. Palesemente ubriaco. Dei mostri, ovviamente, sì, esatto. Un mostro ubriaco. Life had just begun. Oh, and now I'm gone. Qui è tutto il barbon che ti sei dato. Che hai dato. Infatti, se senti adesso fa barbon. Senti qua. Sai come dicono gli americani in questo caso? I missed the dogs. Dove hai studiato lingue? Che vuol dire I missed the dogs? I missed the dogs. Non ho capito la prima parte. I miss to the dogs. Mi sono perso il miss no. È tipo mancare, esatto, che è? Quindi... manco ai cani. Ai cani. La simpatia portaci via comunque. Esatto. Mezzo di Stanislavski. Allora ci chiedono un bel film. Vogliamo aprire una parentesi su Bohemian Rhapsody? No, perché io ancora lo devo vedere. No, vabbè. Vabbè, ma noi lo allora, no, no, non ci saranno spoiler. Mi spiace, ma posso... diciamo al finale che lui posso muore. Dire... Esatto, lui muore. Perché nel film manco se vede che muore. Allora, sai che vuoi. Il metodo Stanislavski, sì. Guarda, sì, in effetti ti dico una cosa, alla fine lui diventa famoso. No, ma lui no. Lutena. Lui diventa famoso quasi subito nel film. Ah, okay. No, comunque devo dire, se non vi aspettate l'opera fortemente storiografica, molto attinente, e comunque lo considerate come un'opera di fiction che è un omaggio, secondo me, a un grande personaggio, è un buon film, cioè è un film che... Che no, si lascia... A me quello che mi ha sempre terrorizzato è che il protagonista, no? Perché Rami Malek, c'ha questa cosa che dello sguardo tu pensi o che sta male forte con la tiroide, perché c'ha non l'occhio dei fori, di più. Ma guarda che lo prende però. Con questo molto. Sguardo completamente perso, che in altri film, per esempio in Mr. Robots ci sta benissimo, perché lui fa proprio, diciamo, il bipolare invasato, quindi ci sta bene questo suo sguardo da, come dire, da triglia di 3 giorni fa sul banco del pesce. Però nell'interpretazione di Freddie Mercury, per quanto l'abbiano veramente truccato e reso praticamente identico all'originale, forse un po' più esile, perché comunque Freddie Mercury mi sa che era un po' più piazzato, era un omone rispetto a Rami Malek. Beh, omone no, però era più palestra, era cioè, era un po' più no, più non è un discorso alto. Di palestra, era anche un po' più scolpito, più diciamo che c'era il fisico da persona longilinea, però da anni 70-80 non era un fisico magari curato come può avere una... Ma comunque guarda, però... poi quando lo vedrai, cioè, poi ne riparliamo la prossima settimana, quando lo vedi sì. c'è sta sì. No, no, ma la cosa incredibile è Brian May, praticamente è uguale, cioè, è lui. Vabbè, ma per fare Brian May basta che prendi un frattone, guarda, l'ho detto pure io sta cosa, però Angelo Branduardi per esempio lo metti in testa, ma pure gli occhi, dai, no, è proprio lui, ma anche so i vari personaggi all'interno del Live Aid, cioè lo stesso Bob Geldof è uguale, ma cioè, infatti è una da un certo punto di vista la sensazione che loro abbiano fatto più che un biopic una sorta quasi di documentario fake, nel senso non hanno voluto dare un'interpretazione, una chiave di lettura, no. Da un punto di vista della trama so che ci sono parecchi adattamenti, ci sono parecchie cose che non corrispondono alla vera storia del film, però lì non sappiamo se proprio così, capito? Però teoricamente, visto che c'erano sul set, c'erano sempre Brian May e mi sembra Roger Taylor, no? Qui giustamente Carmine dice che male che ha fatto nei 20 minuti del pezzo di Bohemian Rhapsody che c'è alla fine del film, che è clamoroso, sì, ha fatto più espressioni lì in quei 20 minuti che in 3 anni di in 3 stagioni di Mr. Robot. Ma lì è il personaggio, però insomma, sì, esatto, in Mr. Robot lui doveva essere completamente alienato da un punto di vista Tra l'altro non vedo l'ora che esca la quarta stagione, che se non ricordo male sarà l'ultima, per capire come finalmente come, quale sarà la fine di questa serie. Grande, grande particolare. Serie, grande serie. Che non hanno visto, dovete vederla quella serie. Sì, è su Amazon? Su Amazon credo ci sia la prima stagione, però diciamo l'anteprima esclusiva c'è la Mediaset Premium, quindi c'è su Infinity. Vabbè, comunque un buon film, dai, un buon film da vedere, andatevelo a vedere se vi piacciono. Poi come abbiamo detto anche con Luca Casciola, che salutiamo, sai, che se andate a vedere comunque un film con della buona musica, la musica fa l'80% del film. E quando parliamo di Queen è tutto. Io ho visto gente, e questo ti dice quanto la gente sia affamata di buona musica, perché questo è in un periodo così drammatico dal punto di vista musicale. C'è gente che è uscita dal cinema, cioè una ragazza, c'è un film maestoso. In realtà non, cioè non è un film maestoso, è che i Queen e la musica di Queen fa tutto, che quella generazione di giovani, anche una sorta di, diciamo, il Gusella della generazione, ma anche giovani, un po' più giovani, che magari sono andati a vedere i Queen, non hanno avuto la fortuna di viverli di persona, di poter aver mai sentito un loro disco quando usciva, o di vedere un'interpretazione in diretta. O noi in Italia poi siamo stati sfortunati, perché loro a suonare in Italia praticamente non ci sono mai venuti. Però al di là di questo, comunque sia, chi è della nostra generazione, comunque il fenomeno Queen fino poi al 91, quando Freddie Mercury è morto, in qualche modo l'ha vissuto. Ma vogliamo dire che Simone Cusella o è bipolare o stava a fare una figuraccia comunque. No, ma non è Simone Cusella, ragazzi, penso noi abbiamo effettivamente un ascoltatore che spesso e volentieri arriva, ci saluta, ci dice: io vi ascolto in difterite, e invece stavolta è... Allora Stefano, sì, questo è il periodo della trap, di... e una volta era il periodo del trap, non so se ve lo ricordate. Strunz! però vabbè, al di là di questo, Stefano, noi fino adesso pensavamo che tu eri Simone Cusella. No, perché avete in comune l'avatar, quindi non ti offendere, no, se ti abbiamo, non qui l'avatar, se ti abbiamo scambiato. Però su Telegram sappiate che avete lo stesso Avataru. Avataru Moroboshi? Avataru. Ok. Che è successo? Invece no, ragazzi, io volevo raccontare questa cosa, perché visto che avete citato il discorso del bisogno di avere... So parlare, scusa, ma devo parlare, devo dire delle cose, posso continuare? Oh, visto? Oh, film musicali, no, io vi avevo raccontato qualche settimana fa di aver visto un altro film musicale che, diciamo, mi ha impressionato, non me l'aspettavo così bello, che è quello con Lady Gaga e Bradley Cooper, che era A Star Is Born, che è, diciamo, una storia biografica, ma non autobiografica, che può raccontare un pochino l'ascesa di una, dal nulla, di una, diciamo, di una cantante, in questo caso di Lady Gaga. Diciamo, questo film mi ha impressionato per due motivi. Uno, perché finalmente sono riuscito a capire che faccia c'ha Lady Gaga senza trucco, perché fino a mo non l'avevo capito. Era donna anonima, però è una bella ragazza, ha un viso particolare, un naso un po' particolare, però io la trovo una ragazza molto bella. Al di là di questo, però, nel film si tirano fuori delle doti artistiche, musicali, che non credevo. In particolar modo Bradley Cooper, nelle parti in cui canta da solo. Scusate, e c'ha un vocione impressionante. Io ho rito. Ah, ok. Vai, scusa. Io però basta, io mi rifiuto cioè, non si può lavorare con con questi mentecatti provinciali, cioè, assolutamente non professionisti. Stava a guardare il cellulare e rideva, dico, boh, avrà visto qualcosa di divertente. No, perché dovete sapere che qui i coniugi si fanno un continuo ammiccamenti sessuali. Abbiamo capito che dopo la puntata si vogliono andare a sfogare, insomma. Basta. Comunque chiediamo ufficialmente e definitivamente scusa a Stefano, perché veramente scusa Stefano, ti offriremo da bere quando mai. Stefano, vieni a trovare anche tu, anche in studio se vuoi, se sei. Ma ricordiamo noi abbiamo lo studio, il funzionamento. Lo studio funziona che se bussate coi piedi, se siete donne, se avete le tette, potete fare quello che volete. Se però non ce ne accorgete. L'importante è che non bussate con le tette, se no non ce ne accorgiamo. È più carino che però, veniate e bussate coi piedi, ovvero perché le mani sono occupate da un bel calvario. Allora, se di siete pastelle. Donne ed entrano prima le tette che voi, va bene, altrimenti insomma ci può interessare poco. Se non siete donne, invece, dovete bussare coi piedi, che a Roma significa una cosa specifica, che Cusella ha imparato quasi subito. Questo bisogna dire che, insomma, rispetto a tante altre cose, insomma, l'ha capita. E per esempio, non ho ancora capito la differenza tra fare il vento e fare il venticello, che è problematica sta cosa. No, fare l'aria pure, perché... anche fare l'aria. Io comunque, a proposito di romanità, vorrei parlare. Vuoi pagare? Dai, paga. Di un hashtag che imperversa ultimamente, che si prepara all'8 dicembre, e che è Roma non fa la stupida. Cioè, è la risposta ironica alla manifestazione di Salvini, la manifestazione e ai bellissimi Circo Massimo. Comunque Stefano ci dice che è di Livorno, che quindi è difficile che... non è che stai in Papuasia, insomma, una volta dovessi venire a Roma per qualsiasi ragione ci avvisi, noi ti preleviamo, ti portiamo in studio, facciamo fare la trasmissione e poi bimbe mazzate e poi con l'occasione ti sottraiamo anche qualche organo interno, non so a Livorno che tipo dei dolci ci stanno, tipo, vabbè, vi cito queste tre diciamo tre, così questi tre manifesti, tre. Okay. La Lega a Roma e Anna Magnani. Poi il Monnetta. Non ho capito, scusa. Manco no, ragazzi, io però l'ho detto mille volte. Non si possono raccontare i meme in radio. No, ma non lo capisco. La Lega a Roma e poi sarei io il Monnetta. Dice il Monnetta, giustamente. La sorella risponde alla Lega a Roma. È come la carbonara con la panna. Non puoi far ridere? No, non ci ma se diventa del Gusella della situazione. Diventa peggio del Gusella. No, perché... no. È arrivata Maria Pina. Maria Pina. Ecco, presidente. Posso. Presidente! Intanto ci arrivano notizie sulla salute di Gusella che è morto. Perché c'ha 35,8. C'ha 35,8, quindi sei morto praticamente. Cioè. Vabbè. Ma succede che la febbre si abbassa. Se tu prendi gli antibiotici, ma soprattutto le tisane agli aghi di pino, poi la febbre si abbassa. Ecco un'altra per che sempre parteciperà presto a una trasmissione. Quindi significa che noi stiamo zitti per tutto il tempo. Ossia Maria Pina, perché poi quando c'è Maria Pina basta, non parla più nessuno. Ragazzi, un'informazione di servizio, adesso io lo dico così in maniera che i coniugi Pizzi con il loro istinto genitoriale possano correre in soccorso. Abbiamo il Simone Gusella moribondo, il suo termometro dice che ha 35. Ma è quello 8. Che abbiamo appena detto. Ero distratto. No, mi preoccupo, dico, è calla. Guarda se gli esce il sacco dalle orecchie. Perché addirittura. Signor Presidente, tutto a posto. C'è 35 e 8. No, poi io nel frattempo mi stavo premunendo di chiedere. No, guarda che secondo me Gusella aveva due termometri. Scusatemi. Perché secondo me. Secondo me è 358, cioè Fahrenheit, cioè non lo so, secondo me è 358 gradi. Comunque già quel termometro di merda che anche noi ci avevamo, che faceva delle temperature. Dunque, quello dove si infila casaccio. Per capirci, perché secondo me Gusella l'ha messo nel posto sbagliato, credo anch'io. Però cioè si può mettere in tutti e due i posti. Attenzione, no? Che contemporaneamente, attenzione, sì. Che giustamente Stefano ci informa che è andata perché ci porterà il famoso poncio alla livornese. Buono! Che io non ho mai sentito, però sicuramente. Il castagnaccio, sì, buonissimo. Ottimo per digerire il castagnaccio. Il castagnaccio. Ma anche un po' ma di caciucco, se ce lo vuole portare, a noi va bene. Ma il caciucco che c'entra con Livorno? Come che c'entra con Livorno? Oh, mamma mia, ma questo modo cacciato. Questo modo scusate, cacciare. Una domanda, ma fatemi capire, Maria Pina ha preso i voti? No, ma chi la vota, Maria Pina? Ah, chi la vota? Ha sbagliato voti allora. Sì, ma chi sì, la sì. vota? No, ragazzi, ma scusate, a proposito di politica, vogliamo raccontare due cialtronate che sono successe ieri per colpa del nostro stimatissimo ministro degli interni? Il capitano. Del capitone? Del capitone. Tipo? Tipo che ieri il signor capitone ha intorno alle 9 di mattina ha fatto una diretta Facebook in cui si complimentava per l'esito positivo di una operazione di polizia durante la quale sostanzialmente la polizia ha sgominato una banda di mafiosi africani, nigeriani. Ora al di là di tutto, girati mafiosi nigeriani. No, vabbè, no, in realtà era un'associazione per delinquere, era vera questa. Soltanto che un importante magistrato antiterrorismo torinese, adesso mi sfugge il nome, che tra l'altro da qualche settimana appenderà anche la tunica al chiodo perché finirà la sua carriera, lo ha rimproverato pubblicamente, lo ha, scusatemi il termine, sputtanato, perché gli ha detto che questo suo intervento autoincensatorio per fare autopropaganda era inopportuno perché l'operazione di polizia Spataro, il procuratore Spataro dice l'operazione non era ancora terminata, tu hai rischiato di farla saltare per aria perché alcuni delle persone soggette ad arresto e diciamo a provvedimento di fermo poteva non essere ancora stata fermata, e quindi sentendo quel messaggio di Salvini poteva capire che parlavano anche di lui e se poteva dare la macchia. E Salvini, invece di dire scusa hai ragione faccio pippa, gli ha dato addosso, gli ha detto ah ma strano. Un magistrato, ma se andasse in pensione uno che parla così è perché probabilmente sta facendo politica, allora forse vuole fare politica, cioè l'ha accusato, siccome tra qualche settimana se andrà in pensione, di aver fatto questa uscita per fini politici, perché magari una volta che avrà posato la tunica vorrà entrare in politica attiva. Cioè, voglio dire, ma come caspi, cioè, come si fa come fa il ministro degli interni a permettersi questi toni? Scusa, vabbè, pure tu che ti fai ancora queste domande, ma, cioè, noi facciamo cronaca e quello va bene. Comunque salutiamo Rizzard, che giustamente esordisce dicendo il capitano ormai rinominato Erzoffia. Erzoffia, sì, perché ovviamente fa prente, fa la, beh, ha fatto una figura veramente mica vabbè. No, ma pure Gualdi ci voleva dire che quelle di Maio sono peggio, devo essere che sì, però Marco ci vuole raccontare il fatto che giustamente Salvini ha fatto anche una diretta Facebook, Ma è proprio durante questa diretta Facebook che è successo quello che Marco ci narrerà. Ecco, allora che succede? Quindi la diretta è stata una merda. Sì. No, non era un'altra. Era quella, quella in cui rispondeva al magistrato. Era durante la sera. Era quando rispondeva al magistrato. Allora, che è successo? È che praticamente il buon Salvini ha cominciato a fare la sua diretta come consono, come che prassi, si come prassi. La sua direttina Facebook, è vero? È normale. E infatti, che cosa è successo? Che praticamente non troppo la notizia, ma sti cazzi. Vabbè, facile da dirlo, insomma. Praticamente, che è successo? Che mentre faceva questa proclama, questo proclama assolutamente non autoincensatorio, non auto. No, in questo programma stava cazziando il magistrato perché l'aveva cazziato. Ah, bene, perfetto. Che è successo? Che per qualche oscuro e stranissimo motivo tecnico, che nessuno si può spiegare, è saltata la diretta ed è subentrata uno streaming di una gamer filippina che praticamente stava giocando, stava facendo uno streaming di un gioco. Anche. Mi permetti di spiegarlo meglio? Quello che è successo è stato che tutti gli utenti che stavano guardando la diretta di Salvini sono stati dirottati nel flusso streaming di questa ragazza gamer che stava facendo una sessione di gioco live. Si è vista arrivare qualcosa tipo 15.000 connessioni nuovi utenti. Che e lei ha detto, sono è ricca! È impazzita! Nel senso, non ci voleva credere, ma com'è possibile? Ma che infatti, figata no? è? Infatti, però tutti credere. Sotto gli scrivono, brutta negra, vai via! Praticamente, alla fine, questa non capiva perché, fatto sta che in realtà i 15.000 utenti che avevano popolato la sua diretta di sessione di gioco, in realtà secondo me volevano vedere Salvini al ministro, cosa... gli hanno fatto una burla, ma secondo me la burla, ma questa cosa credo sia un errore tecnico che nessuno poteva pilotare, secondo me è stato un bug farmando bestemmie, probabilmente esattamente. Che poi la storia del farmare, la gente, i nostri ascoltatori la conoscono. Sì devi fare attenzione perché ti puoi farmare. Ma che cazzo dici? Ma invece, sempre per parlare dei geni del nostro governo, il genio per antonomasia, quello che riesce in furbizia a battere sia Salvini che Di Maio, che è il ministro delle infrastrutture Toninelli, si è reso stavolta suo malgrado protagonista di un'altra figuraccia, o meglio di una situazione molto divertente. Cioè, il ministro delle infrastrutture era stato invitato al secondo giorno del congresso nazionale di Filea CGIL che si teneva alla stazione marittima di Napoli per parlare di infrastrutture, insomma di quello che in teoria concernerebbe il suo dicastero. Ma lui non andava. Il ministro ha deciso di non andarci. Ma per la serie, a me che cazzo me ne frega, voglio stare a casa. Ma mica roba mia questa. Esatto, cioè, perché... mica ho dei doveri istituzionali. Non si è presentato. Benissimo, la sessione è stata fatta lo stesso. I partecipanti cosa hanno fatto? Hanno sostituito Toninelli con un cartonato di Toninelli. In realtà se ne sono accorti dopo. Ma che davvero? Però io non me ne sarei neanche accorto che era il cartonato. La differenza è minima. È minima. Lo sai quando se ne sono accorti? Quando non ha sparato cazzate. È vero, probabilmente. E lì qua, sei finto, non sei vero. Lì hanno capito. Comunque, secondo me, a Toninelli la verità è questa: a Toninelli ormai è stato impedito di dire dopo tutti gli svarioni susseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova, secondo me l'ufficio comunicazione del movimento, in particolare Rocco Casalino, gli ha detto una frase del tipo: se parli ancora mi rinculo, e lui deve aver preso in parola il messaggio e di conseguenza non fiata più. Cioè, avete fatto caso che Toninelli non... Beh, io conosco gente che dopo un'affermazione del genere avrebbe iniziato a gridare, a parlare rotta dei gol, ma però... sicuramente più di uno. Però ora non è un problema, permettimi di dirlo in maniera franca, non è un problema di omosessualità, è un problema di buon gusto. Se lo mette al culo da Casalino, secondo me neanche. Beh, ma anche dall'altra parte non è proprio il massimo. Esatto, insomma. Diciamo. Vabbè, quindi, tra insomma. Tutte e due, ecco. Vabbè, belle cose. E come dice Rizzard, Dumboy, questo lo dice lei, che è la citazione per citare un'altra geniale sottosegretaria che è riuscita a a confutare senza nessun argomento una lezione tra virgolette, in cui a porta Padoan spiegava perché lo spread influisce sui mutui, e l'argomento della sottosegretaria di 5 Stelle che cercava di controbattere, questo lo dice lei. Come per dire, scusa se lo dice uno che ha due lauree, dei master ed è un alto docente di economia, ma no, oltre ma essere a un ex ministro. No, allora, lo dice lei. A che allora, serve la laurea? Sbano, allora non hai capito, mo non è perché superato, tu sei laureato, è tutto superato, basta. La laurea, noi abbiamo buttato anni. Non serve a niente, soldi. Comunque, tu l'hai buttato. Permettetemi di chiudere quest'ultimo racconto con l'ultimo biasimo. Perché veramente, secondo me, il fondo dello squallore, io ora, adesso come al solito quando parlo male dei 5 Stelle sicuramente metà delle persone in chat si indegnano e se ne vanno, però secondo me l'apice negativo dello squallore dei 5 Stelle l'hanno toccato in questi giorni, quando dopo che le Iene hanno svelato alcuni piccoli tutto sommato reati patrimoniali del padre di Di Maio, che sostanzialmente aveva intestato l'azienda di famiglia per eludere dei beni da un sequestro perché aveva un accertamento con Equitalia per circa 200.000 euro, e sostanzialmente c'è tutta questa storia di questo fabbricato che veniva descritto come un rudere fatiscente, in realtà c'era una piccola costruzione allestita per cucinare con una piscinetta removibile in cui lo stesso Di Maio si era fatto delle foto su Facebook, eccetera eccetera. Secondo me la cosa grave di tutto questo è che, per cercare di far passare che, a differenza di tutti gli altri padri politici che sono stati blastati per anni, giustamente dai 5 Stelle, vedi il padre della Boschi, vedi il padre di Renzi, che poi finora in molte circostanze gli accertamenti legali hanno anche in qualche modo discolpato sì, da alcune cose, per cercare di far capire per l'ennesima volta che loro si applica il classico due pesi e due misure 5 Stelle, Di Maio non soltanto ha voluto sminuire e non si è voluto attribuire le responsabilità di quello che aveva fatto il padre, ma a un certo punto ha mandato anche il padre alla gogna pubblica, facendogli leggere una sorta di messaggio pubblico che sicuramente qualcuno aveva scritto per lui, in cui sostanzialmente, squalidamente, lui diceva: è colpa mia, mio figlio non c'entra niente. Che secondo me è la cosa più squalida che un figlio possa fare ad un padre. Sì, no, veramente uno squallore. Ma Di Maio è veramente una persona orrenda. Poche ore, pochi giorni dopo si sta dimostrando che in realtà non è vero niente, perché Di Maio era al 50% proprietario dell'azienda che era oggetto del contenzioso che le Iene hanno, passatemi il termine, sputtanato. Quindi sostanzialmente è assolutamente coinvolto nel fatto, che certo non è grave come il fallimento di una banca o altro, però comunque per che quelli che hanno onestà, alla fine siamo alle solite, cioè ancora una volta hanno dimostrato la che grossa sono differenza tra i politici pre 5 Stelle e 5 Stelle, che perlomeno loro non dicevano onestà, perché tanto ce lo sapevano. Sì, era uno status quo, era inutile far finta di essere onesti, tanto una mano lava l'altra, l'hanno sempre detto. I 5 Stelle per anni, prima di salire al potere, hanno blastato tutto e tutti con gli stessi strumenti che pensavano di conoscere così bene, perché se sono riusciti a blastare mezzo mondo attraverso l'uso strategico dei social network e di internet, dovevano anche aspettarsi che a parti invertite gli toccava anche a loro. E mo stanno a rosicà, mo non gli sta bene, mo che il fango deve arrivare su di loro non va più bene, non va ragazzi, bene, no, è qualcosa di fenomenale, insomma. Non va bene, no, il fango non fa mai piacere. Dice Stefano infatti in chat: Madonna che tristezza, che il video del padre di Di Maio, non ci credeva nemmeno lui mentre leggeva la lettera. Certo che non ci credeva. Ma io fossi perché lui pensava: ma per davvero mi fa comunque di queste io cose? Penso, io guardate, ma io mi sarei rifiutato. Lo dissi in tempi non sospetti. Purtroppo gli italiani oramai sono così, gli piace sta roba, perché vabbè, ma è il classico. Secondo me Di Maio è proprio il classico infame che in classe lo piavano tutti a pizze, perché ogni cosa faceva la spia al professore. Sì. Proprio, cioè, si vede proprio che è un infamone, cioè proprio è il primo, il cocchetto, il servetto di padroni. Quindi, ma non è neanche il primo della classe. Perché da una parte è vero che era il classico viscido falso che corre dalla maestra, ma secondo me poi da un punto di vista dell'impegno non è neanche uno che studia. perché è anche un ignorante Di Maio, cioè non azzecca un congiuntivo neanche per statistica. Ma lui sono anni che studia all'università, ma non conosce neanche la politica, cioè nel vabbè, senso quello non è problema quello nessuno per fare politica stelle, non c'è bisogno no, di conoscere infatti, la politica esatto. Infatti è quello comunque, che stavo caso, dicendo da comunque aspetta facciamo Pietro... un attimo una pausa, mettiamo un branino no, così mi organizzo un attimo. Aspetta, qua vuole leggere un comunicato internazionale? No, semplicemente che tra l'altro il non so come definirlo, però praticamente il no, giornalista che cacchio è? Quello delle Iene, che cos'è un giornalista? No? Non lo so, potrebbe anche esatto, esserlo potrebbe comunque esserlo. L'inviato delle Iene l'inviato, che ha fatto infatti tra l'altro si è visto ricevere minacce pesantissime sui social ovviamente. Eh beh, perché quello è lo strumento la chi ti paga? Cioè, lo sappiamo chi ti paga. Accusatoria del classico di diciamo servo di Renzi fascistello. Vabbè, ma questa è stata come la cosa dell'altra settimana del padre del direttore della Repubblica, cioè voglio dire ragazzi stiamo cioè che poi veramente oramai si stanno autodistruggendo perché ma... anche la gente, non dico proprio i fanatici, ma anche la gente che gli ha dato comunque fino adesso li stanno a insultare tutti pure su Twitter, cioè la cosa veramente... brutta è che vanno verso Salvini ragazzi, ma quello è il problema. A proposito di Repubblica, ma secondo me guarda era questo lo scopo A proposito di Repubblica, ieri dal programma di Voice di martedì c'era Eugenio Scalfari, ma quanto è vecchio. Mamma mia, era vecchio quando ero piccolino io. L'ha affondata. Okay. No, fondata che non è sì, Petula. Sì, ma poi era già insopportabile. Mica come Feltri ha affondato il giornale. Ok, allora facciamo una piccola pausa, un brano. Questa volta ci differenziamo un bel po' rispetto a quello che facciamo. Oh, finalmente Dire Straits. Adesso sentiamo un po' musica italiana. Musica italiana che è importante. Ah, questa è bellissima. Perché è tanto, insomma, che non la mettiamo, anzi, penso non l'abbiamo mai messa e ci sentiamo. Bennato. Tutti medici sapienti. Nel nome del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Ed è detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possa fermare devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male, vai scappa! E rientriamo dunque, ovviamente, cioè, vabbè, ma qui come si fa a fare la radio con questi, mentre che uno rientra e sente merda. Cazzo, cioè veramente vabbè, è una cosa assolutamente la positività che aleggia nei nostri giornali. Certo, la merda. E vabbè, comunque, voi quello che non sapete, e ve lo dico io perché ci sono tante cose che noi non sappiamo, perché la scienza è dentro di me in qualche modo, e vabbè, insomma, stavo a fare un'altra cosa nel mentre. Vabbè, quello che non sapete è che tipo io qualche stamattina l'ho fatta la scienza, tu qualche no? settimana fa non no qualche settimana fa qualche giorno fa mi pare proprio la scorsa settimana, e a un certo punto i sismografi di tutto il mondo hanno iniziato a lavorare alacremente, quasi contemporaneamente, anzi non proprio contemporaneamente, è come se un enorme terremoto a livello planetario si fosse diffuso praticamente per tutto il pianeta con un'enorme onda di dispersione. È scoraggiato. E allora tutti dicono, che cazzo, che sarà mai successo? Anche perché l'epicentro era... era casa abusiva di Di Maio, Madagascar, no. Sai quelle zone lì, insomma, no? Quindi tutti è Madagascato. Mo sarà Madagascato mia, e non no, e sarà cos'ellata. Ragazzi. Quindi praticamente il terrore è che insomma il Madagascar non esistesse più, fosse tutto esploso, roba del ma genere. Ma l'hai trovata sta notizia? Chi la sto cercando? Te l'ho fatto vedere ieri sera. Vabbè. No, tu me l'hai raccontata ieri sera. Vabbè, le fonti mi pizzi, le fonti. Dai, andiamo avanti, ce ne frega un cazzo le fonti. Vabbè, una bella storia comunque. La cosa bella è che tutti sono cioè, un po' tutto il mondo si sono messi mamma lì mia, a questi fa... sono morti. Tutti sei chiacchiere perché cosa può essere successo? Perché allora se non è successo niente. Guardi tu pure. Ma noi l'abbiamo registrato, allora tutti sti cervelloni che se so, e a un certo punto hanno detto ma ragazzi praticamente c'è una nuova attività vulcanica sotto l'oceano vicino al Madagascar e sta per nascere, non si sa quando e non si sa con quali catastrofi, una nuova isola. Perché poi sapete che lì, insomma, le isole... Aspetta, sta per nascere, che in aree geologiche potrebbe voler dire anche fra 2000 anni. No, pare che sia una cosa... Qual è la capitale del Madagascar? Madagascar? No. Cioè, è la prima domanda che mi hanno fatto al mio primo giorno di lavoro in un'agenzia di viaggi. Ti dico solo che c'ha il cellulare in mano con scritto Wikipedia Madagascar. No, ma il bello è che sogghigna, no, capito? No, no, no. È Guadalquivir. Me coglioni, brava, brava. Brava, brava, bravissima. Guadalupe, la nostra domestica. Tanto per poi esplode. Che ci frega. Infatti, esatto, esatto, esatto. Vabbè, ma con tutto questo. Poi, però, sì. Però poi c'è stato oggi o ieri un terremoto grosso. C'è stato un grande terremoto in un'isola della Nuova Zelanda. Vedi. Tipo 7 punto qualche cosa. Con tsunami. E ha causato un allarme tsunami che non so se è rientrato, insomma. È la nuova isola non di è rientrato Re Giuliano, dice, ma no, non è rientrato, è uscito. Ma ha detto che faceva tardi? No, infatti ma non c'è. No, perché sennò allora giustamente Stefano che dimostra con questo di essere un nostro fedele ascoltatore di Morti di Bestemmie. Tesla, colpa di Tesla. Sì, sì. Quindi vi comunque l'abbi, non lo sappiamo se Gusella è andato a Chiavari, però sì, a Chiavari forse a Chiavari è andato. Però magari saremmo contenti se fosse così per lui, sì, però ma Gusella non ci pensa queste cose, no, non interessa, è sessuato. Ragazzi, quindi, da questo punto di vista, a proposito, io mi auguro ci siano ottime notizie dopo domenica, nel senso che sappiamo che potrebbero succedere le cose per cui diciamo delle congiunzioni astrali potrebbero permettere a Gusella di fare nuove conoscenze, capito? Potrebbero. Lui non parla allora io mi auguro come che parla? Tu spiegherai alla controparte de fa la sveglia della situazione di prendere iniziativa. Ma poraccio, noi già cioè, abbiamo detto, ma magari metti direttamente le mani lì, metti le mano addosso, prendigli la mano e mettitela sul che spacco, è un po' quello che succede con un'amica di Michela che dopo 150 anni si è decisa, insomma, di uscire con qualcuno trovato su internet, e però pure lì, insomma, stavano lì, traccheggiavano, ma che faccio, c'esco, non c'esco, ma come ti chiami, come non ti chiami. Io a un certo punto gli ho detto, senti, invece di fare tutte queste domande che Banco stai lì, tu subito in chat la prima cosa gli devi dire quanto ce l'hai grosso, così lui lo capisce e finalmente guagliate. Poi non so come è andata a finire, però. No, no, guarda, questa cosa potrebbe essere bloccante. Michele, racconta. Bene, è andata a finire molto bene. Ah, quindi hanno pure. Il consiglio è stato ben accetto. Ragazzi, vi racconto la leggenda di zio Enzino, che voi non sapete chi è, ma è il saggio zio di un mio caro amico, che sostanzialmente utilizzava la tecnica del emmo. Cioè, sostanzialmente, cioè, tu sta a perdere tempo, lo tiri fuori, boom, fai emmo. E vedi che succede, insomma, questa no, non è la tipo tecnica. Maniaco. Non funziona più, cioè. Non purtroppo è illegale. Tipo maniaco sessuale. Viene considerato illegale da beh, molte. Non lo devi fare nei parchi giochi davanti ai bambini, no, effettivamente no, ma anche in privato, se non sei in privato in situazioni particolari è considerato cioè, ingiustamente, secondo me, assolutamente ingiustamente. Ma che ingiustamente? Sta lì, ingiustamente. No, non tocchiamo questo tasto, ma assolutamente, cioè, ma io non è che ti vengo a stuprare, ti faccio vedere, boh, che vuoi fa? Poi se mi dice no, guarda, non mi interessa, tu lo rimetti dentro e vai via. Cioè, cosa sì, c'è esatto, di sbagliato? Cioè, è normale, cioè, il pavone fa la ruota e tu fai il gommone, è così. Vabbè, normale. Stiamo toccando. Guardi, fa così, esatto. È un uomo di uno sfacciato successo con le donne, insomma. Esatto, tutte quante che mi dicono no, grazie. E quindi io ci provo, insomma, è normale. Bisogna sempre buttarlo lì, insomma, come si dice. Ma cioè, tu ci provi prima o dopo aver tentato di vendere una casa a loro, sempre le donne, cioè arriva la donna. Dipende, se non comprano la casa, se comprano la casa è il pacco sorpresa. Che prima i soldi e poi il piacere, prima il lavoro e poi prima il dovere e poi il piacere. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Poi se c'è tutte e due, meglio ancora. Vabbè, quindi. Ma che tristezza sta discussione. Ci devi dire un'altra cosa, però. Stavo parlando di Brexit. Sì, stavo parlando di Brexit fra di noi. Perché praticamente. Però vorrei fare una parentesi prima della Brexit, così. Capite di che stiamo a parlare? Aspetta, tonda con riferimento al decreto dignità, il famoso aboliamo la povertà, facciamo sì, una festa. Il 30% delle imprese del settore metalmeccanico non rinnoverà alla data di scadenza i contratti a tempo determinato in essere. Certo, ma che succede? L'afferma Federmeccanica nel comunicato relativo alla sua indagine congiunturale sull'industria. Cioè, ma chi è quel coglione che te va a fare un contratto a tempo determinato quando te può fare aprire una partita IVA? Vabbè, questo voleva anche prima, non era. Ma oggi è ancora di più. Sono state comunque persino gli ultimi governi di Renzi, se so in qualche modo. Sì, ma mo torna. Però ragazzi, guardate che modo in questi giorni lo spettro di una nuova recessione dopo quella del 2012 si sta facendo avanti, anche è se... vero, l'ha detto pure la Goldman Sachs Class. Io permettete se faccio una riflessione, la Goldman Sachs addirittura una riflessione, la riflessione questa allargata, la riflessione è che in realtà la recessione che è iniziata nel 2008 non è ancora finita, quindi io direi che mi dici che ne inizia un'altra, non è mai finita quella del 2008. Beh, no, c'è stata una ripresa nel 2000, io lavorando con le aziende, dice che a livello immobiliare qualcosa sarà ripreso, insomma. Ho visto una ripresa tra 2015 e 2016, neanche normalizzata, ma già è andata a livelli dal 2016 in poi ha cominciato a calare, quindi era soltanto il classico rebound diciamo delle cure cortisoniche, non è, allora non però ripresa. Voglio dire, sta questione della Brexit, perché praticamente voi sapete che la May ha dichiarato che il 99% degli accordi sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sono stati praticamente sanciti e manca semplicemente un accordo che pare che una piccolezza pare manca. Che è un accordo che può fare scatenare le tre guerre mondiali tutte quante messe insieme, no, a parte questo, che è relativa ai confini tra Irlanda del Nord e Irlanda insomma. Perché c'è questo piccolo problemuccio che la gran parte dell'Irlanda, quindi non l'Irlanda del Nord, che di fatto aveva già aderito alla moneta unica, perché ricordiamolo, in Irlanda c'è l'euro, non c'è la sterlina. Certo, certo. L'Irlanda ha detto sì, voi fate quello che vi pare, ma noi non usciamo dall'Europa, non abbiamo nessuna intenzione di farlo, noi non facciamo parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, di conseguenza non abbiamo, diciamo, l'effetto del sondaggio della Brexit non ha nessun impatto su di noi, e quindi c'è questo piccolo problemuccio per il quale sostanzialmente tra Irlanda del Nord e Irlanda tocca fare una frontiera. Che sì. Tiri su un muro alto fino lo al soffitto. Lo fai fare messicani. Però ragazzi, la cosa divertente è che adesso questo chiaramente era un nodo spinoso, roba del genere, però in realtà sono già diverse settimane, in maniera particolare, in maniera molto più insistente da un paio di settimane, pare che giustamente tutta una serie di parte della società economica e politica della Gran Bretagna in realtà hanno cominciato a sostenere in maniera sempre più forte che loro, tutto sommato, desta cazzo de Brexit, non è che sono tanto d'accordo. E non solo, fatemi finire di dire una cosa una volta. Aspetta, finisco di poi dopo. Dice, non solo, ieri l'Unione Europea ha fatto sapere che in qualsiasi momento durante questa transazione c'è una regola specifica all'interno dei regolamenti dell'Unione Europea che definisce che la Gran Bretagna può revocare la Brexit unilateralmente in qualsiasi momento. Io sapevo che fondamentalmente l'Unione Europea era disposta ad accettare la retromarcia solo se avessero organizzato un altro referendum in cui sostanzialmente il popolo britannico stesso ritrattasse, ma io sono sicuro che dal momento stesso in cui sono usciti i risultati del referendum hanno sbiancato, si sono detti abbiamo fatto una cazzata e mo come ne uscimo. Secondo me alla fine cercheranno La May era contenta, perché lei stava lì solo apposta, per quello, ma solo la May era contenta perché è stata messa lì dagli americani per fare questa cosa, quindi cioè nel senso strutturalmente la Brexit non ha nessun senso. Abbiamo sempre detto che la Gran Bretagna era l'unico paese ad avere dalla partecipazione all'Unione Europea solo dei vantaggi, perché non partecipava alla moneta unica, per esempio, quindi sostanzialmente non aveva le frontiere, gestiva importazioni e esportazioni senza frontiere, ma non aveva la rogna di dover, diciamo, gestire l'inflazione tramite la Banca Centrale Europea, perché si continuava a coniare la propria moneta. In uno scenario del genere, ma chi vorrebbe uscire? Hai soltanto vantaggi, non ultimo anche il fatto che uscire al governo inglese costerà una quantità di miliardi di euro improponibile, si parla tipo 300 miliardi di euro, una cosa del genere, quindi sostanzialmente e poi ricordiamoci che la Gran Bretagna è un'isola, uscire da un'unione e trovarsi isolata, quindi sostanzialmente avere tutto il mare intorno a essa che torna ad essere una frontiera, non è una cosa ragionevole e comoda in un'economia globalizzata come quella di oggi. Soltanto che non sapevano proprio come uscirne, anche perché da buoni britannici la plomba e la faccia prima di tutto, quindi pur di non ammettere di aver fatto una cazzata avrebbero preferito uscire. quello che stanno cercando, secondo me, da interpretazione da diciamo da popolino, è il motivo e o il capro espiatorio per dire vabbè va, abbiamo scherzato, meno male, va, allora famo che non uscimo. Solo che lo devono fare appunto con un capro espiatorio tecnico o con un politico espiatorio, perché sostanzialmente ci devono salvare quel poco di faccia che possono salvare. Ma secondo me, io ti dico, alla fine 3 anni di tutta sta tiritera e hanno fatto una delle cose più italiane del mondo, perché alla fine secondo me questi non certo, la fanno la Brexit. Michela, tu che stavi dicendo? Li hanno persi, No, niente, stavo spiegando. Allora niente, praticamente questo... il microfono sta là. Ok. Scusa. Stavo spiegando che praticamente questa backstop, che praticamente dovrebbe essere una sorta di canalizzazione tra l'Inghilterra e le due Irlande, dovrebbe, secondo i piani della May, proseguire fino al 2022 e poi praticamente andare avanti così. Ma Cox, che comunque è il non mi ricordo se era tipo il procuratore, il signor Cazzi, che... ricordiamo il procuratore, scusi, che ha esaminato Cazzi. La reazione sia dell'Inghilterra che dell'Europa rispetto a questa manovra, ha espresso il suo disappunto e appunto gli ha detto, cioè, non è che possiamo continuare a mediare con questa sorta di canalizzazione tra l'Inghilterra e le due Irlande e rimanere sempre nel, diciamo così, nel limbo. A un certo punto dovremmo uscire, se dobbiamo uscire, altrimenti ritorniamo indietro, ripetiamo. Io credo poi, ragazzi, che il colpo di grazia lo darà. Posso dire solo una cosa semplice, secondo me come la fanno ci hanno comunque rimesso un sacco di soldi. Ma allora, ma veramente un sacco di soldi. Ma loro chi gli frega, sono inglesi, loro sono oltretutto migliori. Io dico questo, allora intanto c'è una posizione che ancora non è stata presa e che secondo me poi sarà il colpo di grazia a ogni cosa, perché ricordiamoci che gli inglesi sulla loro testolina hanno quel simpaticissimo popolo che io adoro, che sono gli scozzesi, che da una parte a loro, secondo me, di stare in Europa, di stare anche eventualmente nell'euro, non gliene fregherebbe proprio niente. Se non che, pur di poter fare un dispetto alla corona, sono capaci di dire noi vogliamo rimanere in Europa. Infatti in qualche modo timidamente l'hanno già detto alla fine del diciamo dell'esito referendario, dice un attimo, ma noi come nazione, come Scozia, non vogliamo uscire dall'Europa. Da lì poi non hanno più preso posizioni nette, però secondo me potrebbero essere quelli che danno la spallata definitiva alla May. Allora sì, perché il partito di governo in Scozia, che voi sapete che la Scozia c'è una sorta di parlamento indipendente all'interno del Regno Unito, era comunque contrario all'uscita dall'Europa, però hanno detto noi ci adeguiamo alla questione della Brexit e sosteniamo la May, ma quando abbiamo fatto la Brexit poi se la vedremo fra di noi, che detto da uno scozzese, esatto, all'inglese è non è una bella cosa, no, quindi... perché vuol dire così dall'indomani non esiste più neanche il Regno Unito. Te sei Inghilterra e io sono Scozia. Io de Brexit, esatto, infatti il partito di maggioranza è il partito indipendentista. Lo chiamerebbero Scottix. Esatto, Scottix, Scottex anche. Scottex, Scottex. Ragazzi, del resto, poi io adesso, siccome a me piacerebbe vedere le bastardate tipiche dell'Unione Europea, io adesso, se fossi l'Unione Europea, andrei, tra virgolette, con una, diciamo, la mano compassionevole del Papa, e andrei a dire a che è sto disturbo del cellulare, scusa, forse... andrei a dire sostanzialmente, cari amici inglesi, vogliamo venirvi incontro, ci rendiamo conto del vostro disagio, vi vogliamo dare una mano, accettiamo di mandare tutto a carte 48, facciamo che abbiamo scherzato, adesso voi rimanete nell'Unione Europea, che è quello che sotto sotto volete, però mi entrate nell'euro. E allora si sarebbe carino quella cosa. Comunque, per tornare invece in argomento, però Pizzi, ti posso fare una domanda tecnica, una domanda alla quale chiedo a te ma la risposta. Ma come si vivrebbe in Inghilterra senza pounds? Ma soprattutto senza porridge? La domanda, che schifo il porridge. La domanda è ma perché gli americani avrebbero tutto questo interesse a far uscire dall'Europa l'Inghilterra? Me lo sto domandando proprio da ignorante. Non lo so, non ho capito neanche la domanda, a dir vero. Tu hai detto che Theresa May è stata messa lì dagli americani con un compito. You had one job. Ma... allora, la disgregazione, c'è in atto una fase di si sostiene che ci sia in atto una fase di finanziamento di tutti i movimenti anti-europeisti all'interno dell'Unione. Sì, perché però ovviamente un'Unione arriva più dall'est che dall'ovest. Non è così. Secondo me la non lei ha semplicemente frainteso. Sono... Quando Trump gli diceva yeah, yeah, bella, per yeah, te, fuck, yeah, finalmente uno che mi sa finalmente uno che mi dà retta e che mi dice che sono brava. Allora, ma guarda, è quello l'arterio sclerotico. Mi appoggia, yeah, però yeah, poi non si ricorda più. No, l'unica... Anche se fossimo stati a Roma gli avremmo detto guarda, non è che l'America ti appoggia, l'America te l'appoggia. È arrivato Cosella con la sua battuta, perché Maria Pina ha scritto il muro di Dublino e Gusella ha risposto pensandoci molto, perché è il pezzo che non scriveva il muro di Merlino. Il muro di Merlino. Vabbè. Comunque dicevo che secondo me conviene a tutti, sia il blocco est che agli Stati Uniti, che l'Europa si disgreghi, perché comunque potenzialmente, però vabbè, è un discorso un po' complesso. La fantastica America di Trump che spara, poliziotti che sparano sulla frontiera ai fatto. Bambini messicani, o meglio, che scappano verso il Messico, che costano, sparano, costano, cioè valgono in realtà più. Non sono messicani, i profughi che scappano arrivano dall'Honduras tendenzialmente, peggio, non sono messicani, però comunque gli sparano contro, sì, cioè. Sì, vabbè raga, ma una nazione nata nella violenza, come dimostrano anche grosse opere cinematografiche dell'epoca. Comunque invece Gusella nel gruppo Telegram di Morti di Bestemmie ci condivide un link che io ho messo adesso in chat della trasmissione, che è veramente divertente da vedere, perché si chiama praticamente gente che nel Medioevo muore male ma non gliene frega niente, ma non gliene frega niente. Infatti se voi scorrete l'articolo ci sono tutta la serie di dipinti. Voi sapete che nel Medioevo non erano così bravi a disegnare, insomma, facevano le sculture, facevano le armi, facevano tutto, però a disegnare non erano granché. Guardare le morti del trono di spade. In realtà erano bravi a disegnare, perché ci sono fior di pittori. Il problema è che chi faceva questi affreschi. Beh, no, nel Medioevo. Chi c'era nel Medioevo? Come disse il Papa, Michelangelo affresca me sta cappella. Infatti, sì. Esatto. Però okay. quello è successo. Hai dopo, definito però. queste battute, queste controbattute? No, almeno fino alle 23 penso che andremo avanti. Abbiamo ancora 40 minuti. Comunque, vabbè, il primo quadro è uno che infilza. Una, perché pensa sia una, cioè, il bello è che non è che è una metafora della vita, Simone. Bisogna morire con allegria. È quello che dovrebbe fare Cusella. Ma anche il secondo domenica. Quadro, questo ride proprio, cioè nel senso, si ritrova una spada nel cuore, però va bene, è tutto a posto. La spada nel cuore. Sono allegorie, ragazzi, sono allegorie. Questo è il Papa, chi è questo? È il Papa, il terzo? Il re. Che poi guardate, cioè, che pose blanche. E niente, ancora una volta stiamo raccontando dei meme, praticamente, anche se medievali. No, però io. Il re no. Che muore è ucciso dall'uomo ho capito, ragazzi. Esatto. Dico una fusellata. Non sono dei dipinti, sono dei meme medievali. Mamma mia, ma basta. Basta, vi prego, portate via Gusella, ci sta facendo male. Vabbè ragazzi, faccio in modo che non sentiate la mancanza. Ah bello, questo si è preso una bella accetta in faccia questa. Oggi Simone ha detto, come facciamo a fare la puntata senza Gusella? Io ve le sto facendo. Ma guardateveli, no, vi prego, ragazzi. Dove sta? L'ho messo nella chat sta pure. Allora, sta dicendo mamma mia, che figa che c'ho. Mannaggia la miseria. Ho preso la giornata di me. Accetta in faccia. Ci ho preso, alla già miseria. Oh. Ma chi mi ha fatto passare stamattina ad uscire? È questo? No, ma questo è un po' montaggio. San Francesco che si accetta la capoccia. No, beh, questa è una cazzata. Ah, no, c'è pure, c'è pure il pugnale in petto. Sì. Petto. Vabbè, ragazzi. Questo oltre che cornuto c'ha pure il coltello in testa, capito? Ma c'è sta una con un cornutello, una con ragazzi. La spada in gola, che è tutto a posto. No? Vabbè ragazzi, sempre la gente con la spada. Ma sono allegorie, sono davvero allegorie, quindi voglio dire, hanno dei significati reconditi, però voglio dire, se vogliamo fare gli ultimi 40 minuti di puntata, tutta così. Vabbè, però faccio ridere un attimo, scusa, certo, faccio ridere, la professionalità la mettiamo. Gusella risponde ovviamente, infatti quelle persone sono molto allegoriche di morire. esatto, io l'allegoria vedo nella faccia di chi muore, insomma, vabbè. Ma io ragazzi, una vita di stenti ed è mai una gioia. Sapete, nel Medioevo morire era felicità. Voi adesso morire. Non lo sapete, però tutta quella raccolta nel Medioevo è stata esposta in una galleria d'arte, è stata fatta una rassegna chiamata Morti di Bestemmie. Era l'epoca. Si faceva così? Eh beh sì, in effetti ci potremmo fare una puntata su sta cosa. Comunque grazie Gusella che hai condiviso in tempo reale questo fantastico documento storico. Gusella, domanda di quelli servizio. Hai tolto il termometro al sederino, papà? Ma soprattutto ce n'hai due? Che è quella la cosa più importante. Ma lui ce n'ha uno e lo usa. Ma poi sono tantissimi sti quadri. Sono veramente una marea, cioè... Pensa, nel Medioevo si disegnava. Ma guarda, guarda questo. Appena non c'era la televisione, il tempo dovevi occupare in qualche modo. Scusate, però a me fa ridere. C'è uno che col coltello. Un macrocefalo che gli hanno ucciso la croce. Sì, e poi erano disegni sproporzionati. Perché sti cazzo dei medievali non sapevano disegnare. Erano stati bastardi senza gloria. Chi lo sa? Tipo. Secondo me era l'intrattenimento pulp dell'epoca. Era tipo Tarantinus che disegnava tutte ste robe. Insomma. Infatti dava fastidio. Cosa dava fastidio? Dice Simone che non era nel sedere il termometro, quindi per quel motivo dava fastidio. Ah, ecco, ok. Vabbè. Allora, altre notizie? Altre notizie. Simulator Navigator. Parliamo di Navigator, ragazzi, perché Di Maio ne ha fatta un'altra delle sue. È andato in... La sapete, l'abbiamo raccontato già la storia delle famose tessere per il reddito di cittadinanza. Che le stanno stampando. Che lui ha detto, la sta stampando la posta. La posta ha detto, chi? Noi? Veramente? No. Però al di là di questo, ne ha raccontato un'altra, cioè vuole istituire nei centri per l'impiego la figura del Navigator, che è una figura che esiste in realtà in altri stati del mondo, in cui sostanzialmente negli equivalenti centri per l'impiego ci sono dei tutor che si occupano di formare le persone perché dopo possano assumere dei ruoli nelle aziende. Come per dire, io insegno attraverso i tutor dell'ufficio di collocamento dei mestieri alle persone, così dopo le aziende li possono assumere senza il problema di doverle formare. Io, Walter, ti ho detto perché lo fanno. Cioè, tu c'hai 1 milione di disoccupati, 500.000 li metti a fare i navigator, gli altri 500.000 fanno i disoccupati, e tu hai già dimezzato così il problema della disoccupazione. Ah, beh, certo, se quelle 500.000 persone li assumi a fare il navigator, l'impiego... Ma perché il navigatore? Ah, guarda. Cioè, tutto quello lo posso capire, ma un navigatore. Ripeto, credo che si chiamino così in alcuni altri paesi. E poi paesi, io ho pensato che fosse tipo... Cioè, non avevo letto che era una persona, che era un programma. Essere umano. Perché tanto loro un drone che girava e guardava. C'è già chi ha provato a spiegare. Ci sono anche delle inchieste di, se non sbaglio, o di Report o di altri, diciamo, programmi giornalistici di inchiesta al riguardo. È dimostrato che in Italia, con tutta la buona volontà, l'ufficio di collocamento non ha mai trovato lavoro a nessuno. No, infatti Wizard ci riconferma che nei centri per l'impiego ci stanno solo degli scaldapoltrone. Che, per carità, io capisco anche, non è manco colpa loro, perché se le province, le regioni o chi per loro decidono, o i comuni decidono che ci deve essere questi uffici provinciali, questi uffici, ecco, ora non si chiamano più uffici di collegamento, si chiamano centri per l'impiego, e qualcuno dentro ci dovrà pure lavorare. Il fatto che stiano lì a scaldare le poltrone è diciamo così, risultato di un sistema malato, che è ovviamente un sistema clientelare che... Per dare posti di lavoro a chi conviene, quindi a chi gli dà il voto, eccetera, eccetera, hanno istituito tutte queste figure di uffici assolutamente burocraticizzati e inutili. Come so? Burocraticizzati. Nei quali nessuno mai veramente trarrà un'utilità. Ma non solo lì, cioè non solo nel centro di impiego. Anch'io nel 2012, dopo aver fatto un periodo di cassa integrazione e mobilità, perché l'azienda dove lavoravo ha chiuso, sono andato al centro per l'impiego per fare quello che si chiama patto di servizio, per avere sostanzialmente gli ammortizzatori sociali per il periodo che mi spettavano. Benissimo, ho fatto tutto, ho fatto anche i corsi della regione sostitutivi, perché se no non te davano i sussidi. Da lì, ma secondo voi, sono passati 5 anni, ma mi hanno chiamato mai mezza volta, anche neanche per propormi di andare a lavorare in scale da qualche parte? Mai. E come me, tutti quelli che come me in quel periodo eravamo centinaia solo della mia azienda, quello era veramente uno dei periodi di crisi più profonda dell'Italia, era tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, soltanto tra le aziende di via Tiburtina a Roma, per citare, ci sono stati nell'arco di un paio di mesi qualcosa come 4.000 nuovi disoccupati, di cui 200 rotti eravamo noi. Però, per dire, nessuno di queste persone attraverso i centri per l'impiego ha cavato un ragno dal buco. E allora, caro Di Maio, tu puoi mettere il tutor, puoi mettere il navigator, puoi mettere il Netscape, puoi mettere il semaforo a 4 vie, l'incrocio a 4 tempi, quello che ti pare. Nessuno avrà mai per questo un lavoro, e se non lo capisci sei stupido. Ah, attenzione, qui si fanno affermazioni pesanti. E siccome io non credo che poi Di Maio sia veramente così stupido, lo sa benissimo. Io credo di sì. Ma c'è un piccolo problema, che tanto loro quanto l'altra metà del governo, perché ricordiamoci che le due anime del governo sono assolutamente in competizione l'una con l'altra, non stanno governando, perché i fatti ci dicono che nessuno sta facendo niente di esecutivo. Stanno facendo campagna elettorale per la prossima però volta. Il decreto sicurezza è stato firmato al Presidente della Repubblica. Me coglioni! Poi mi dispiace vedere che Mattarella, alla fine Mattarella, non si può ribellare più di tanto. È stato quando approvato dalle Camere. Però fondamentalmente firmare quel decreto legge sicurezza è veramente fare un passo verso il fascismo. Quindi Più che altro una cosa di cui ti ricorderai tutta la vita e verrà ricordato per sempre nella storia come il Presidente della Repubblica che ha firmato. Ma tanto che deve fare, pure se non lo firma io lo ripresentano, devi firmare. È la seconda volta obbligato, certo. Sì. Può solo, come dire, traccheggiare. Sì. Per quanto con questo governo così assolutamente volubile e instabile, magari bastava traccheggiare un mese che nel frattempo il governo cade, chi lo comunque sa. Se il Navigator viene a casa, se noi diventiamo disoccupati e il Navigator viene a casa nostra e ci porta lontano tra le stelle. Ci porta? Lontano tra le stelle. Navigator. Noi gli facciamo fare la radio. Buonanotte bimbi, ci dice Leo Vargion. Ma come Leo, vai a dormire? Nel frattempo, ci andrei pure io. Infatti anch'io, sì. Nel frattempo si è fermato il sottofondo. Sì, nel frattempo ci dice, tra l'altro Peppe Rizzard confermava la tesi di prima. Dice: io sono iscritto al collocamento dall'età di 14 anni, in oltre 40 anni mai una chiamata, mai una cartolina, mai uno sputo in faccia. Nulla. Quindi insomma, ma secondo me ce devi andare tu da loro. Cioè, di Dio, sì, che mi hai trovato? Gli porti caffè, due pasticcini. Esatto. Secondo me, se fai così, te lo trovano il lavoro. Devi sempre entrare a bussare coi piedi. Sempre coi piedi e vedrai che prima o poi il lavoro te lo trovano. Anche perché qualcuno di loro prima o poi morirà, no? Quelli che stanno dentro. E tu entri e prendi il posto. È così che funziona. Walter. Anche noi ti vogliamo bene, Leo. Vero? Confermate. Sì, non sì, basta che ci porti qualcosa da mangiare. Vabbè, ciao. Andiamo tutti a dormire. Beh, ciao. See you later, alligator. Invece vi domando se il nostro stimatissimo Lobby Frontali abbia nel frattempo terminato la conference call. Ha terminato, me l'ha confermato a me. Sì. Infatti. Perché vi parlate umma, munci. Certo, no, l'ha scritto anche nella chat. Certo. Vabbè, io direi che possiamo mettere un brano, che ne so. Bramiamo questo brano. No, però veramente stancante. Dite un'altra notizia e poi mettiamo. Allora, un'altra notizia. Ora dico una poesia. Tra l'altro Guzzanti fantastico alla TV dei ragazzi del giovedì scorso. Beh, è stato un po' noioso. Ma poco ritmo. Noioso. Vabbè. E un'altra notizia, a me non mi viene niente perché non c'ho le vostre scalette. Dov'è che c'è? Non abbiamo le scalette oggi, noi stiamo improvvisando. No, vabbè, vogliamo dare una notizia brutta che in qualche modo abbiamo tra virgolette quasi vissuto, diciamo, in prima persona, perché è successo a pochissimi chilometri dai nostri studi. Oggi sulla via Salaria, sulla strada, un tratto di strada che è poco fuori Roma, attentato, porta verso Rieti, praticamente è successo un incidente apocalittico, perché durante una fase di rifornimento delle anche noi ti vogliamo bene di un distributore di benzina, l'autobotte che stava travasando il carburante ha prima preso fuoco e dopo un po' è esplosa ed è saltata, praticamente è partita l'autobotte come fosse un proiettile, coinvolgendo purtroppo e uccidendo due persone, di cui uno era un vigile del fuoco che correva sul posto pur non essendo in servizio. Fratello, sì, di uno dei sindaci dell'entroterra rietino, non so se è proprio di Rieti. Ma la cosa brutta, insomma, mi ha fatto pensare a uno scenario apocalittico, 18 feriti, eccetera. Ho pensato come in Italia la figura del vigile del fuoco sia assolutamente sottovalutata. Perché a differenza di membri delle forze dell'ordine canoniche tradizionali, che per carità anche loro in alcune circostanze possono rischiare la pellaccia, il vigile del fuoco la rischia molto molto più spesso, e anche lui per uno stipendio assolutamente modesto e mediocre. E se per esempio paesi come gli Stati Uniti celebrano molto spesso in molte occasioni la figura del vigile del fuoco anche con molte serie TV, molti riconoscimenti, eccetera. In Italia anche noi abbiamo avuto pompieri. Salvini ringrazia carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, guardia forestale, guardie giurate, ma dei pompieri purtroppo non si ricorda mai nessuno. Ed è un peccato, perché veramente sono tra quelle persone che fanno uno dei lavori più eticamente e civicamente importanti, rischiando in prima persona un sacco di volte. Quindi ringraziamoli. Però posso dire veramente, io li ringrazio, perché veramente tutti coloro che fanno. Però sta cosa, cioè, dopo l'11 settembre, voi sapete che gli americani non c'era un programma dove non c'era il pompiere eroe, che erano diventati. Allora, una volta stavamo a vedere, io e lei stavamo a vedere, sai, una di quelle puntate tipo Hell's Kitchen con Gordon Ramsay, sai, noi se piace guardarsi la trasmissione un po' del cazzo. E a un certo punto c'era uno dei concorrenti che praticamente stava per essere eliminato e dice: perché dovresti rimanere? Beh, io sono un pompiere. E allora tutti, grandi eroi, non so, mai derotto il cazzo con questi pompieri a me. No, beh, strumentalizzare il ruolo, no, per c'era un periodo, no. C'era un periodo, regà, che no, ma c'era un periodo che non se ne poteva più di sti cazzo di pompieri, li mettevano dappertutto, pure su quattro matrimoni là c'era quello che faceva il pompiere eroe americano. Vabbè, però diciamo quello è un fenomeno tutto americano, figlio di una situazione tragica americana. No, però... ma io non mi riferisco a quello che dici te, che è giustissimo. Però Lizard ci dice: ho due parenti nei vigili del fuoco, vi assicuro che fanno un culo quadro, per carità, con i turni per carità. Massacranti pagati un cazzo e un peperone. Due peperoni, cazzo! Scusate, si accumula, è partito Lembo. Lo fa consapevolmente, va in missione ogni cazzo di giorno. Beh, in realtà è così. Noi perché a un parlamentare diamo 30.000 euro al mese, a un pompiere ne diamo 1.500? Io questo vorrei capire, per esempio. Questo è populismo. Sì, un po', sì, è un po', che necessità di manutenzione, Rizzard. Ma manutenzione che non viene fatta, immagino. No, perché i soldi sono sempre meno. Vabbè, io metto adesso il brano. Salutiamo anche Stefano, che va a dormire. La volta che ci ascolta, non in difterite, ma mi è preso male pure. Ma sì, esatto. Ha detto: ma chi me lo fa fare? Ma in dissenteria. Comunque, le immagini aeree dell'incidente sono veramente. Peccato, Stefano, perché adesso arrivano le donne nude. Infatti, adesso c'è un brano molto. Penso che conoscano in pochi, però sentiamo un po' di musica sconosciuta e di alto livello. Quindi ci sentiamo fra pochissimo. E va bene, questi erano i Diaframma con Siberia, una canzone che probabilmente molti di voi neanche... La banda sonora dell'omonimo videogioco. Neanche con la Siberia, esatto. No, però quella era con la Y. Vede, la vedo... Ma tu non l'hai pronunciata la Y. La vedo un po' impreparata, però a questo punto noi interveniamo, insomma, perché sapete che a un certo punto, come tutte le puntate di OGM che si rispettano... C'è un coccodrillo. C'è sempre un momento... C'è sempre qualcuno che muore. Di riflessione, di ricordo. E quindi vogliamo ricordare un attore, un bravo attore, un attore di, diciamo così, di genere in qualche modo, che ha avuto diciamo interpretazioni anche di successo, per esempio in film di Ferzan Özpetek, che qualche giorno fa all'ospedale Cardarelli di Napoli si è spento per, credo, per un coma leucemico. Bella roba. Sì, lui tra l'altro credo fosse assolutamente diciamo normalmente residente a Roma, originario di Viterbo. Non so per quale motivo si trovasse a Napoli in quel periodo. Fatto sta che è stato ricoverato e purtroppo è morto senza poterne uscire. E stiamo parlando ovviamente dell'attore Ennio Fantastichini. Ci dispiace. Che prima di essere un attore era un uomo. Ma anche come ci ricorderebbe la citazione del film di Özpetek: io non sono gay, io sono frocio. Sì, vero. Che poi questa cosa la diceva anche un ragazzo, un mio amico attore. Che ti metteva la mano sul palco. No, non mi metteva le mani, però diceva: sono frocio, va bene? Sono frocio. Beh, c'è chi ci tiene alla, come dire, all'orgoglio di diciamo di dichiarare la sua, giusto, la sua preferenza. Non c'è niente di male. Come processualità. Vabbè. Dice lobby frontali, azzi, diaframma, li conosco, anzi li conosco. Le canuscio. Vabbè, comunque ragazzi, questa è veramente una puntata inutile. Sì, sì, come abbastanza. Però non è inutile. Ho visto le puntate inutili. Non è inutile come il sito Who Paid 99 Cents. Who Paid 99 Cents. Chi ha pagato 99 centesimi? È un sito che cosa? Per sapere chi ha pagato 99 centesimi. Ma per cosa? Per sapere chi ha pagato 99 centesimi. Ma 99 centesimi che sì, ci ha comprato? Sì, ma perché strillate, ragazzi? No, stiamo con ci tutti ha pagato qua. Per sapere chi ha pagato 99 centesimi. Vi spiego. Esiste sai questo sito. Mi pare? Un Inception. Al cinema, a che vede Quo Vadis e che Vordin? Dov'hai? A bravo, cinema, esatto. Vede, è un Inception. Esatto. Who paid 99 cents? Chi ha pagato 99 cents? È un sito che ti permette di sapere chi ha pagato 99 centesimi prima di te per vedere chi ha pagato 99 centesimi prima di lui e così via. Ho capito, una sorta di annidamento infinito. Perfetto, quindi che succede? Che c'è un tizio che si chiama Sean qualcosa. Questo Sean qualcosa praticamente è andato Abnormal. È andato a vedere, effettivamente ha pagato 99 centesimi e gli è stata data una lista di 43 nomi di persone che effettivamente hanno pagato prima di lui 99 centesimi per capire chi avesse pagato altri 99 centesimi. È una specie di catena. Ok, non so se... ma scusa, il primo della catena non ha denunciato la truffa, nel senso il primo della catena no. Nessuno prima di lui aveva pagato. Però l'ha visto, quindi non è stato tenuto nascosto, ha visto che nessuno prima di lui aveva pagato. O magari era lo stesso che ha creato il sito che ha pagato i 99 centesimi. Che può dire? Machiavellico. Guarda, Pizzi l'ha presa un sacco male. No, stavo sì, perché stava pagando 99 centesimi, però c'ha la carta vuota. Ce n'ha solo 90 su PayPal. Stavo a pensare che su BoJack Horseman, il cartone animato che sta su Netflix, c'è a un certo punto un sito che era un sito che faceva miliardi, perché praticamente tutti ci cliccavano tutti i giorni, che era cheoresono.com. Che la gente andava lì per vedere che ore sono. Allora c'è Bojack che a un certo punto si domanda, cioè, ma che cazzo ci va a fare la gente da un computer, deve andare in un sito che si chiama cheoresono.com quando l'orologio ce l'ha nell'angolo a sinistra del proprio computer. Però questo sito a destra, hai ragione. Questo sito ha talmente, che la gente ci andava, che è diventato talmente ricco, talmente potente, che ha addirittura prodotto anche una serie televisiva. Vabbè, questo è una cazzata, però mi faceva ridere perché mi ha fatto ricordare cheoresono.com. Esisterà cheoresono wasttimeisit.com? Ma ragazzi, sapete che anni fa uscì un tizio, secondo me un classico genio di origine necessariamente napoletana, che aprì un sito internet che vendeva un metodo. Questo metodo a cosa serviva? Serviva a dire sostanzialmente, si rivolgeva alle coppie che volevano avere figli e volevano avere la certezza che il figlio che avrebbero di lì a poco concepito sarebbe stato o maschio o femmina. Questo esiste, questo dottore, quindi questo luminare che proponeva questo metodo, diceva: voi mi date 100 euro. No, non è che esiste, è stato comprato. Allora, cheoresono.com è stato comprato. Scusate, allora stavo raccontando, insomma, scusa, questo aneddoto di questo tizio geniale che dice: ok, io vi fornisco un metodo, un vademecum, che si basa su tutta una serie di principi un po' raccolti dal Feng Shui, un po' da altre filosofie orientali, eccetera. E dice: se voi lo mettete in pratica, vi garantisco che se concepirete con le istruzioni che avete seguito sul manuale, il figlio che nascerà sarà maschio se fate quello che dovete fare per averlo maschio, e viceversa femmina, altrimenti vi rimborso. Soddisfatti e rimborsati. Esatto. E questo, ragazzi, è una genialità enorme, perché c'è il 50% di possibilità di azzeccarci da ogni... Poi se a quei 50% all'altra metà che sbagliano ci metti a dei tempi tecnici, perché sostanzialmente dal momento in cui ricevo il metodo a quando avrò una gravidanza e se sarà passato sufficiente tempo per capire il sesso del nascituro, intanto mi dovrò ricordare di chiedere il rimborso, ammesso che poi me lo darai, ma pure se me lo darai nel frattempo avrei lucrato anche sugli interessi di quelle somme. Comunque sì, poi diciamo qualcuno credo che gli abbia detto che era una truffa e insomma sostanzialmente gli abbiano impedito di continuare a farlo, però la logica dietro tecnicamente non era una truffa, cioè non puoi dimostrarlo, capito? Comunque ti do i soldi. Se non funziona ti ridò i soldi. La truffa nasce nel momento in cui l'insieme di aneddoti accroccati per illuderti di poter influenzare diciamo il sesso del nascituro è una truffa, quello, nel senso non vabbè, serve a niente. Raga, io continuo però sempre a dire che comunque la gente gli dà i soldi. Sì, certo. Anche gli oroscopi non servono a niente. Perché c'è voglia di tu, pure di che è una truffa, che questo è uno che se la approfitta l'obiettivo. Ma sei pagato Vanna Marchi, ma sei imbecille. Esatto. Ma mica solo Vanna Marchi, ta prende con Vanna Marchi. L'esempio, diciamo, Vanna Marchi comunque almeno il suo lo faceva, cioè nel senso era un personaggio che mediaticamente era una che sapeva fare quella cosa. Sì, però io vi ricordo che Vanna Marchi, prima di tutti questi sistemi, chi è un po' più vecchio come me, insomma, se lo ricordo, vendeva le creme dimagranti che non servivano a un cazzo. Esatto. La cosa bella di quelle creme è che vedevi le tette delle modelle, quindi ogni tanto mi puntavo lì a vederle, questo fango verdino spalmato su questi corpi, che schifo. Però tanto dire, vendeva, 100.000, costava 100.000. Tutti che sapevano con Vanna Marchi, il problema è sempre la gente che compra, come quelli che davano 200-300 milioni di lire perché quelli là gli facevano questo talismano dell'amore. Questo, come sappiamo, è un problema radicato nella cultura del nostro paese, tant'è che nel nostro codice penale c'è un reato ben specifico che si chiama abuso della credulità popolare, quindi sostanzialmente per legge non lo puoi fare. Sì, ma non tutto, lo puoi quello, fare, tutto quello che agisce a livello di influenza del subconscio con presunte influenze maligne, iettatorie, malocchie, eccetera, è abuso di vecchie credenze, perché è chiaro che soprattutto le più vecchie generazioni in qualche modo credevano o erano suggestionate da determinati dicerie, discorsi, eccetera, di conseguenza non ce se ne doveva approfittare. Per questo motivo era nato il reato, insomma. Comunque io vi sciolgo la vostra curiosità, che assolutamente non potevate, ma il sito whattimeisit.com esiste e ci dice che sono le 9:38 minuti PM nell'orario standard del UTC 0. Quindi orario di Greenwich. Vabbè, però esiste, ma non è che ti chiede dei soldi, insomma, a differenza dell'ipotesi, cioè non è che perché soldo. C'era la pubblicità. Ah, la pubblicità. Ah, ok, bene. Dice Dumbai, italiano medo credulone, ti sei ascoltato gli americani. Dumbai che poi c'hanno No, no, mi sta leggendo una cosa che ha scritto Lizard in chat. Poi vabbè, se minacci le persone è diverso, Maria Pina dice. Gusella perché... ci mostra un sito che ci indica un sito che è savewalterwhite.com. Sì. Sì, vabbè, questo è perché era il sito che avevano fatto loro. Ah, sì, è vero. Nella serie televisiva. Sì, per sì. raccogliere i soldi per. Vabbè, però questo si sapeva che esisteva. Sì, era stato. Mamma mia. Anzi, proprio lo stesso. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo parlato del fatto che molto probabilmente verrà girato un sequel di Breaking Bad. Che sì, però dovrebbe film, avere. Film. Sì, un film. Sì. Sequel che però dovrebbe avere. Potrebbe avere il protagonista Jess. Jess, sì. E francamente, io, come ho raccontato altre volte, se Jess morisse schiacciato da una vecchietta con una panda in retromarcia, sarei contento. Perché povero non lo so. Uomo, no. Povero. No, non lo so, chi era Jess? No. Jess socio, tra virgolette, il ragazzetto. Jesse Pinkman. Jess Pinkman, sì. Bravo. Sì, sì, no, vabbè, io veramente sarei contenta. Che morisse. Di vedere, no, di vedere questo film, se dovesse Secondo me dipende molto da che fine faranno fare i personaggi, nel senso che si suppone che Walter White possa essere morto nell'ultimo episodio, ma non è detto, non lo vedi, non lo sai. Va bene. Poi potrebbero essere successe tante cose e sarebbe carino anche vedere. Walter White muore comunque perché c'è un cancro e muore. Vabbè, sì. Mi dicono che Better Call Saul è molto bello. Sì, molto, forse è molto secondo me è molto più bello. Ne abbiamo parlato in diretta altre volte. Secondo me è una serie molto più introspettiva, perché si vede proprio una parabola, diciamo, di discesa verso la perdita dell'etica di questo personaggio, che è molto più credibile, secondo me, di quella di un professore di chimica che diventa boss della droga, sinceramente. Uh-huh. Però ha, tra virgolette, la caratteristica che ad alcuni non piace, che adesso è una serie un po' lenta a livello narrativo. Però anche in questo io sarei curioso di vedere. Tu questa cosa da lentezza, però. Cioè... No, ragazzi, dai, Breaking Bad obiettivamente è una serie molto lenta. Breaking Bad è molto lenta. Breaking Bad, Better Call Saul è una serie molto lenta. Non lo so, io non l'ho vista. Quindi... Però vedetela, perché è veramente molto bella. Secondo me è più bella di Breaking Bad, ve l'ho già detto. E comunque sapere. Non solo, sì, qual è Lizard, il percorso di trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman, ma sarebbe bello vedere anche poi che ne sarà di lui dopo Breaking Bad, perché a un certo punto va a fagotto e cerca di scappare, ma non sappiamo poi come va a finire. È grave, Rizzard, che tu non abbia ancora visto Breaking Bad. Sì, no. Rizzard. Grave, no. Cioè, è una bella serie. Io non sono una di quelle che la ritiene la più grande serie della storia della televisione. No, però, insomma, no. Non mi dispiace. Non mi no, dispiace. Però è un gran bel lavoro, soprattutto perché i mariachi e il grande, vecchietto. La più grande serie della storia della televisione è chiaramente Pinocchio, per me. Poi. Pinocchio. E anche Lost. Comunque. Pinocchio. O come direbbe Lost. Marco, la puntata 16 della Lost. La famosa puntata 16 della Lost. Proprio la prima era puntata più. Scusate, tante cazzate, scusate, quella era quella cazzata dice, più scusate, giusta. Dice Maria, raga, ma io non ho capito. No, è perché l'ascolto cioè, è stato basso, perché ce ne andiamo fastidio, conto. Ma cioè, perché ma usciamo, probabilmente ma cioè, raga, andiamo sul rosso, mi strillate comunque, dentro l'orecchia, allora, non c'è bisogno, no, cioè. Volevo dire, ti ripeto, noi non ci rendiamo conto dello strillo perché non abbiamo il ritorno in cuffia. Compriamo delle cuffie perché sennò comunque dicevo Maria Pina ci dice: Danilo si lamenta degli spoiler. Sì, però Breaking Bad è finito 10 anni fa. Better Call Saul è in... Ma chi ha fatto gli spoiler? È scusate. Produzione da 4 anni. Niente. Se non ve lo siete visto, ah, forse è della fine di Breaking Bad. Ho capito, però, ragazzi, vabbè. Ripeto: cioè, non vi voglio spoilerare no. un film uscito ieri, ma un telefilm che inizia con lui che è malato di cancro e che fa tutto quello che fa perché è malato di cancro. Esatto, cioè, di che cazzo muore? Secondo perché voi? Sa che deve morire praticamente. Ma lui non sapeva, Danilo. Io non sapeva neanche che Walter vabbè, White ho capito, ma quello lo scopri la prima puntata, cioè ragazzi, su, la prima puntata lo scopri. Dani, su, di cazzate, su, Dani. Giulia Maria Pina e sti cazzi. Vabbè, allora ascolta Radio Maria. No, Maria Pina no. Radio Maria Pina. Ma Radio Maria come, Pina come suona bene. Lei che parla in continuazione. Bla bla bla, che bello. Maria Pina. Pina, tu mi Pina, tu mi ami. Ti stimo moltissimo. Mamma mia, che frase agghiacciante da dire. Esatto. Vabbè, ragazzi, che dite, ragazzi? Allora, vediamo un po' l'aggiornamento. Io direi che tutto sommato l'abbiamo portata a casa pure stasera. Sì, poi sì, vediamo se la vogliamo portare ancora di più a casa. Però, no, io darei un po' di informazioni di servizio. Tipo, ricordatevi che è quasi Natale. Che è quasi Natale. Feliz Navidad. Ecco, e che praticamente sabato riesce una nuova puntata di Video Ludica. Ora Video Ludica è diventata. Perché dice che non è vero che si lamenta. È faticoso così, è faticoso, scusate, però insomma, alla fine della trasmissione. Io dicevo, ancora non ho capito perché sono 3 settimane che Maria Pina fa la portavoce di Danilo. Infatti, adesso mettiamo la musica che è quella. Perché Danilo sta con la Wallera a zampe all'aria, esatto, e Maria Pina parla. Esatto. Allora, io non so se tu sei pienamente cosciente di che cosa sia la Wallera, perché sì, hai usato un'allegoria abbastanza agghiacciante. Sono cosciente, ma Danilo mi ha capito, perché molto spesso mi manda lui immagini della Wallera. No, tu hai capito che Danilo cosa fa con tua moglie? Sì. No, ma in chat comuni, dove siamo tutti. Beh, certo. Non è vero, io non ho visto niente di tutto questo. Comunque, ricordatevi che Videoludica è tornata e torna ogni settimana e anche sabato, insomma, sarà disponibile per il download, che noi torniamo la prossima settimana. Ricordatevi di andare su www.runtimeradio.it, dove potete fare anche le vostre donazioni, se non le fate perché non le volete fare, insomma, siete un po' delle merdine sotto Natale, ricordate, insomma, sotto Natale potete andare anche tranquillamente su PayPal, perché Tizia il padrone non lo può dire, io non sono il padrone, ve lo posso dire, ma siete un po' delle merdine, ma io se non lo dico tranquillamente senza nessun problema. E andate su paypal.me/runtimeradio e fate una donazione, perché insomma ogni tanto questa è una cosa che fa bene, perché capisco che Patreon non sia un sistema che piace a tutti e ragazzi anche... mi raccomando, ogni tanto non lo ricordiamo, andate su paypal.me/runtimeradio e non /runtime, se no fate la donazione esatto, un altro. Esatto, vabbè, ma che non... sarà contento, ma noi un po' meno, un po' come la Filippina che giocava esatto. 15.000 salviniani, esatto. Che la insultavano, tra l'altro, ma perché, guarda, l'altro non capiva. Ragazzi, una cosa al volo che volevo raccontarvi, mi sono dimenticato. Sapete che in risposta a tutta sta manfrina di Salvini, che diventa sempre più logorroico, sempre più mediatico, su Facebook è stato aperto il gruppo riferito agli Isoardi, Elisa ripensaci. Come dire, ripiate l'accollo perché non lo sopportiamo più. Ah, sì, ok, perfetto. Così, tanto per raccontare. Comunque, per parlare di quell'argomento lì, perché bisogna parlare niente di quell'argomento lì, bisogna tirarlo fuori. Mettila sigla. Metti la sigla. Ce l'abbiamo? No, di cosa? L'argomento lì. Quell'argomento lì. No, non ce l'ho la sigla, stava a fare la chiusura della trasmissione. Ma però, c'è questa cosa veloce. Guardi, ha fatto come Steve Jobs, un'altra cosa. Last but not least. Cioè, stiamo lì, hai capito? Stavamo a fare i saluti, lui che non ascolta. Ci lasciamo con questo saluto finale. Ci sarà da aspettare poco meno di un anno, 11 mesi e qualche cosa, perché a fine stagione, fine anno praticamente, del 2019, arriverà la nuova serie su Picard. Non sapevamo questo. Sì, non sapevamo quando usciva. Non si sapeva quando usciva. Ragazzi, io sono proprio preoccupatissimo perché quello c'ha un'età. Siamo sicuri che gliela fa? Lui gliela fa. Problema ad arrivare, non è Shatner. No, lui gliela fa, Oh, come gliela fa? È grandissimo, dai. Beh, sta ancora Gagliardo, Sì. Abbastanza in forma. Fish che tuost, come direbbe Valentino. Riusciamo a fare finalmente sta chiusura. Quindi se ricordatevi, rantemeradio.it, andate lì, fate la donazione se volete, se non la fate non fa niente. Vi ricordo semplicemente che dalla prossima settimana partiranno praticamente gli spezzapollici a chi non fa le donazioni. No, partirà praticamente tutta la fase di sponsorizzazione di Runtime. No. Allora, Runtime praticamente ha deciso di aderire alla campagna, alle varie campagne pubblicitarie di Spreaker. Non tutte le trasmissioni lo faranno, sarà una scelta singola e soggettiva. Chi deciderà di farlo, ci sarà uno spot all'inizio, uno spot alla fine. Questo non sappiamo quanto ci porterà di monetizzazione, però se ci dovesse portare della monetizzazione, sono comunque soldi in meno che magari... Può darsi che ci arrivino solo bestemmie, però... Anche, può essere pure, insomma. Però se dovesse succedere che qualche soldo lo porta, magari anche noi la finiremo di chiedere soldi anche agli utenti, perché molti dicono, però dopo sponsorizzazioni, cose. Ma voi dovete sempre ricordarvi che tutto questo non è gratis, e questo è una cosa assolutamente importante. Non è gratis per noi, nel senso che ricordiamo che noi, il nostro scopo non è trarre un lucro da Runtime. No, non è gratis quello che stiamo facendo. Però le spese che sosteniamo per far funzionare questo piccolo ambaradan, chiamiamolo così, sono spese vere, perché Spreaker ha un costo, le apparecchiature che ogni tanto compriamo hanno un costo e così via. Quindi stiamo cercando di trovare questi metodi per coprire i costi senza dovervi dire per favore dateci una mano, ecco tutto qua. Esatto, non sì, è che vogliamo che ci paghiate lo stipendio, anche perché voglio dire siamo già ricchi. Poi sì, è comunque una sperimentazione, perché come ci siamo detti anche fra di noi, non abbiamo la minima idea di quanto questo col traffico che facciamo noi, che è assolutamente irrisorio, potrebbe portarci un euro al mese. Esatto. E quindi non cambia l'asse delle cose. Perché considerate che verremo pagati in dollari, quindi c'è in dollari e soprattutto al superamento del decimo dollaro, se no non ci pagano neanche. In dollar. Potrebbe pagarci in sterline, ma farcele uscire fuori corso. Scusate, noi ci apriamo un bel conto in banca a Los Angeles, che Trump è contento, ci facciamo depositare questi fantastigliardi in fondi direttamente in dollar. Hai Cayman? Ho capito, alle Cayman se devi depositarli sì, però se devi lasciarli in giacenza, noi questi soldi ci servono per le spese vive. Devo fare spesa. Ci dobbiamo comprare il SUV nuovo. Dobbiamo andare all'hotel con le sexy bambole. Quindi sai, queste cose così. Ma io non ci voglio andare all'hotel con le sexy bambole. Ma ci saranno anche sexy bambole, ci saranno sicuramente. Io prima voglio sapere chi le pulisce, perché voglio essere sicuro che sono lavate bene, insomma. Ma che mi importa? No, dicevo, io prima di tutto voglio accertarmi di chi si occupa di fare le pulizie. Walter, è quello che stavo dicendo prima. Quello fa parte del piano del governo per trovare lavoro. Tranquillo. Esatto. Quindi, c'è anche quello. Ci sarà un navigator che controllerà i pulitori. C'è un navigator che te porta a pulire le bambole zozze di borra. Ma perché strillate? Io voglio capire perché. Perché è bello strillare. Cioè, forse voi non... Non avete capito che mi distruggete. Vabbè, comunque è basso uguale. Vabbè, dai, comunque puliremo gli orifizi delle bambole se saremo disoccupati. Detto questo, vi ringraziamo come sempre a tutti. Io ringrazio Marco Gualdi che strilla. Mo gli ha preso che deve strillare, perché sennò è perché per il cazzo è il C7, è come i ragazzini cretini. Quando tu gli dici non lo fare quello, lui lo fa, perché sennò non è contento. Mi avete rotto il cazzo per anni, urla davanti al microfono, adesso urlo. Walter Sbano. Uscito fuori te stesso. Sono mortificato per le tue orecchie. Ecco che è una cosa abbastanza importante. Salutiamo anche Michela De Paola. Eppure lei invece parlava a casaccio. Lei ha sostituito quello che è stato Marco Gualdi per anni. Cioè parlava verso il monitor, parlava verso il muro, parlava verso il cellulare, parlava dappertutto. Ciao Michela. Deve essere siedere al tuo fianco che crea questa reazione. Può essere. E poi senti che ansia, ma che... Sto ridendo. Ridi, saluta, dai, saluta al pubblico. Allora, l'Abby ci porta dalle bambole, quindi... andiamo, l'Abby, ci andiamo io e te dalle bambole. Sì. Non ho capito perché Maria Pina ci crede se ci compriamo il sugo. Non lo voglio capire. Il SUV, forse hai capito il SUV. Ah, il SUV. Il SUV, sì. Maria Pina, ci dobbiamo comprare il SUV. Il sugo, sì, Maria Pina, tranquilla. Anche il sugo, sì, tranquilla. Tutto probabile, sì, è tutto a posto, è più probabile il sugo. Quando è che creiamo uno show tutto per Maria Pina? Infatti, ma io l'ho detto, so che Better Call Maria Pina. Pure il titolo, dai. Vabbè, quindi salutiamo tutti: Simone, Maria Pina, Barjon, Lobby Frontali, Pier G, Stefano, Peppe Rizzard, Davide Gatti, che è sparito. Vedi quanti sono? Secondo me Davide si abbiocca a una certa ora. Eh sì, pure secondo me. Vi salutiamo. Vi diamo comunque ciao gente. Vi diamo la buonanotte. Stavo salutando. Credo, quanto ci metti a salutare? No, siamo lenta la salutare. Mamma mia Michela, veramente. Ringrazio tutti. Io ciao io più questa. Basta. Mio marito che... Richiamiamo Mercedes, che è meglio. Infatti mi riporti quella che faceva le pulizie. Oppure una bambola sexy. Vabbè, detto la prossima volta. Oh, una che pulisce le bambole sexy, abbiamo chiuso il cerchio, insomma. La prossima volta c'è Gusella, quindi. Gusella. No, Davide Gatti ci dice, cioè, ci dà segno di presenza e dice: no, gran cazzi coi server, ecco, sempre coi certificati. Ah, ok, però almeno ci hai ascoltato. Speriamo che ti abbiamo quantomeno fatto un minimo di compagnia. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.